Allora, 60 minuti. esatto, ci piace iniziare con una battuta e con una bella scena inappropriata, vai. Allora, benvenuti al 21° episodio di Coloni. Partiamo anche con la registrazione, quindi Saliamo di questo... livello. No, non salite ancora di livello, ma questo è il 21° episodio di Coloni e noi giocheremo a Dungeons & Dragons versione 5, come sempre. E piccolo claim, noi siamo, chi siamo noi? Voglio sentirlo, devo Un piccolo dire. claim. Sì. Dichiarazione. Ah, no, ma di cosa? Chi siamo noi? Andresa come vecchi No, come diavoloni. gruppo. Taikons Esatto, and siamo Tycoons and Dragons e ci potete seguire dove? Dragons. No, non lo so. Non me le ricordo quelle cose. Su Facebook, sulla pagina Tycoons and Dragons, sul blog RipGDR. WordPress.com Vedi, e forse sapevo io come sul ascolto. blog di RipGDR e anche pagina Facebook appunto di Tycoons and Dragons e RipGDR. Prima di passare alla sigla, presento me e i miei ospiti: Andrea Giacomacchi, tutti da Bologna, Luca Lazzarini, Enrico Cattabriga e Giulio Bosi. E già che ci siamo, facciamo partire una sigla se riusciamo. E se non riusciamo, chiediamo l'ASA che ci canti qualcosa. Nella vecchia fattoria. Anche quello credo che abbia il copyright. Nella vecchia trattoria. Ehi, non l'avrei mai detto. Sembra completamente bloccato. Sta laggando appena appena però. Eh sì, sulla lag bisognerebbe lavorarci. Bisognerebbe comprare un computer nuovo. Ma non so se è colpa del computer. Ciao già tra le Tra le opzioni, come si messaggio intitola? tempo aspetto. Best of it. Cazzo è questo? Gli occhi. Non so se sto guardando. Non lo so. Ciao, sì, è vero, anche tantissimo. Va bene. Ma quindi... Ma è uscita la prima di riserva, stai in piedi? Era la prima che toccavi. Che culo! Che C'è una correlazione tra No, la prima che cioè, trovi. no, dico, mi sa che è partito sto dentro l'altro ieri, cos'era? Sì, infatti è pieno di balene. Balene! Manda gigante! Squali, balene! Panda Va gigante! bene, non sono con noi come avete notato e spesso è avvenuto Edoardo Saladini e Stefano Sono Gamberoni che morto. salutiamo. No, anzi, non Non sono. sono. Morto tra un po' arrivo. Non Sì, sono. non so. Siamo un po' bui, ma tra un po', vabbè, accenderemo le luci. Qualcuno di voi mi aveva chiesto il titolo. Il titolo è Seguendo la lepre bianca, che però voi non sapete giustamente ancora cos'è. Non è Allora, male. sì, è vero. Allora, e, partiamo direi dal riassunto dell'episodio precedente. Volete tirare per vedere Di solito. chi vuole fare? 10. C'è un 14 o un 9? Ma è il più basso, quindi lo fa Giulio? Visto che è una disgrazia farlo, che fa il più basso. È una disgrazia già addirittura. Non sai più quanto darmi la verba. Mi sembra un po' esagerato. Allora, Sembra un'interrogazione a scuola, cazzo. Ma no, faccio dire tutto è quello che mi pare. iniziato circa alle 8:30 quando sono arrivato a casa di È il riassunto della serata È una sbagliata. deposizione. No, non è una gallina. No, vabbè, eravamo alla torre bruciata, dovevamo sconfiggere. Almeno non ridere, tu sei sempre qua. Già che fan pietà. Dovevamo sconfitto le streghe. Poi abbiamo esplorato il posto a ricerca del bottino. abbiamo trovato in cima alla torre queste ossa, questa cosa, braciere di pietra e questa strana pietra che invece era, che in realtà era una roba di vetro con dentro un occhio che è tipo il filattiero della congrega, una roba del genere. Sì. Siamo andati per, l'avete distrutto. Per studiarlo, è comparso un demone, abbiamo combattuto e abbiamo battuto. Abbiamo aperto le borse della strega. Tu hai aperto la borsa della strega, io le ho bruciate. Cos'è? La curiosità. Che cos'è? Sì, abbiamo distrutto lì l'occhio della congrega e quindi i corpi delle streghe si sono sciolti, purtroppo rovinando un po' il mio rituale. Poi sì, abbiamo passato la seguente giornata a fare il mio rituale, in realtà, bruciando tutto quello che si poteva bruciare. Sì, vi hanno anche notato dalla colonia, esatto. Abbiamo visto bruciare la torre. La torre bruciata, bruciava. Poi siamo tornati. Torre di Quake. Siamo tornati. Cambiate le mappe! Siamo tornati alla colonia, abbiamo detto che cosa avevamo fatto, che siamo stati troppo fighi, lo hanno detto, bravi. Hanno fatto una cosa. E ci hanno detto che saremmo dovuti, per quella giornata, avremmo dovuto aiutare a tagliare legna, ma poi saremmo dovuti andare da qualche parte a cacciare, perché... Sì, dando un occhio, vediamo se la mappa a sto giro ci fa vedere, sì. Boh, sembrerebbe di sì, chissà se lo fa anche su Facebook. Boh, lo scopriremo. Comunque va bene, dovreste vedere qualcosina in più sulla mappa. Voi siete Tana dell'Orso, ovviamente. Praticamente questa è la, dove sono gli alberelli, è la vecchia foresta, che è una foresta molto grande che si estende all'interno della, diciamo, del continente. E fondamentalmente una delle cose principali che si fa durante i mesi in cui si può abbandonare, diciamo, allontanarsi dalla colonia perché non è troppo freddo, è quella di cacciare e procurare legname e altre fonti, diciamo, di sostentamento per la colonia. Quindi a breve voi verrete inviati nella foresta per appunto mostrare le vostre capacità e vabbè, adesso sul percorso poi ci dilungheremo dopo. Invece Giulio finisce pure. Beh, il mentre eravamo lì tagliare legna è arrivato questo nobile con un seguito di soldati. Tra l'altro noi ci era appena stato detto i cavalli qui non sopravvivono d'inverno, esatto. Sono arrivati 20 soldati a cavallo, esatto. In pratica questo nobile è venuto a prendere possesso delle terre, sarà il nuovo governatore. Esatto, sì, è venuto per fare il governatore della colonia. Ragazzetto spocchioso, del genere. Sì, ti ricordi il nome? Assolutamente. Ok. Qualcuno se l'ha scritto? Kershaw. No. E Sir Harris Lynch. È il... Che era un Lynch, sì. Che era un Lynch. Un Lynch. Però Harris. Non sono interessato ai mortali. Era il vecchio Kershaw. E sì, lui è tipo il pazzo del villaggio. Quake, mi sembra più adatto lui. Quake aveva raccolto un po' di informazioni mentre io facevo roba. Facevi roba? No, facevo conversioni e cose. Congratulazioni! Facevo infusi di bella donna. Sì, per il buon Eric. E parlando col medico lì dell'orso, che a quanto pare non ne sanno moltissimo vicino. Perché quando gli ho chiesto ti serve magari una fumata, un unguento, fa no, noi usiamo solo seghe e martelli. Ok. Avremo qua buono. Avrei una dermatite. Amputiamo. E poi in realtà dovevamo fare. Beh, già la medicina in ambito medievale non era. Cioè, ne sapevano qualcosa. Non tanto, ma qualcosa. Io ad esempio però curo come chierico. Sì, per la magia però. Comodo. Certo. Che ne sai, potrebbe essere scienza, solo che ancora non sanno come funziona. Potrebbe essere una scienza avanzata. Sapevano che le tisane di finocchio servivano per abortire. Prezzemolo. Ci sono tuttora le tisane di Pinocchio. Sarà sconsigliato. Miki? Non so con la tua tisana. Non so comunque con quanto è efficace. Nel dubbio. Vabbè, sì, erano i classici metodi. Si potrebbe fare uno studio. Come la cipolla. Tisane di prezzemolo. Ma un po' sì, perché fondamentalmente il prezzemolo se lo cuoci è molto e diventa velenoso. Sì, un po' sì. No. Quindi è vero, non è che avevano tanti altri metodi. Ma è un altro metodo era sì, tipo... Avrò funzionato una volta ogni 5, però almeno ogni tanto funzionava. Vabbè, come tipo le prostitute spesso si mettevano qualcosa all'interno. Qualsiasi oggetto strano. No, che se mettessero cose all'interno, questo è sempre no, stato così. come barriera e per comunque rendere l'ambiente non ospitale, lo profumavano, vuoi dire? No. Nel senso, si provocavano praticamente delle sorte di infezioni in modo che l'ambiente non fosse idoneo ad ospitare il seme. Vabbè. Dopo questo excursus medico comunque, sulle educational channel. Beh, no, in realtà sono cose interessanti. Non so se possono interessare i nostri. I nostri che si chiamano noi che ci guardiamo. Beh, no, sì, assolutamente invece. Ambientazione è importante. Esatto. E comunque niente, dopo dovevamo partire. Il giorno successivo dovevamo partire. Adesso aspetta a fare anche questo. Sì, gozzovigliando nella taverna dove a quanto pare i cavalieri facevano comunella tra loro e non scambiavano parole con gli altri coloni, ho scoperto che praticamente gli unici due superstiti della fondazione della colonia sono il capo Volmer e questo vecchio pazzo Kerchan. Mm-hmm. Chiamiamo tutti solo con la lettera iniziale, che è l'unica che più o meno mi serve. Ce l'hanno entrambi in realtà un soprannome. Il Volmer è il vecchio orso, mm-hmm. E Kerchan è l'occhio di ghiaccio, quindi in realtà potete chiamare antagonista. E me ne compiaccio. Occhio di ghiaccio. E quindi niente, sì, il vecchio orso mi aveva rivolto delle parole aliene, esatto, alquanto di difficile interpretazione. Che no, no, fa... l'occhio l'occhio di ghiaccio, perché è cieco, è praticamente è cieco questo qua, cioè questo per questo si chiama occhio di ghiaccio, presumibilmente. Pensavo fosse l'altro. E poi se n'è andato per i fatti suoi. È cieco e pazzo, però sì, a quanto pare era stato un grande ranger un tempo. È cieco e pazzo, quindi affidiamoci a lui. Laz, tu hai qualcosa da segnalare? No. Bene. Laz, tu dove fare queste domande quando sono distratto? No, magari volevi partecipare. No. Ok. No. Allora, la situazione è questa. C'è stato questo subbuglio nella colonia, appunto, che avete detto, e però adesso c'è, per voi c'è poco da preoccuparvi in questo senso, dal momento che partirete a breve. Allora, Giulio, prima di partire, puoi recuperare il martellone. E vabbè, adesso quando lo userai, poi vedrai, insomma. Quanto potere puoi sprigionare? Lo segno come martello da guerra. Segnalo come martello da guerra, sì, assolutamente. Viviamo in un mondo vabbè, di pazzi. Vabbè, se vuoi fare una prova di intelligenza, magari puoi vedere. Bello, iniziamo con i miei 5 sulle prove di intelligenza. Ma ti ho dato il modo di diventare più intelligenti, solo Laz vuole diventarlo. No, non è vero, che Laz si è preso lì. Cosa? No, non farlo lì, fallo peccato, è un 14. Beh, questo è un 19, però. 19. Ok, dai, Giulio. Va bene. Allora, questo martello, al momento, tu lo devi considerare come un più 1. Però, quando fai un critico, praticamente... Se fai un critico. Non c'era mai. Non quando. Quando lo fai, aggiungi anche 2 di 10 di danni lightning, fulmine. Quindi puoi anche non scriverlo, tanto. Per il resto è un più 1. Ma Ma almeno fagli vecchio stile che può fare critico anche con 19 allora, dai. O da 18-20. No, non lo fa mai, sono. Solo tu fai critici, beh. Per qualche volta canta quando è ispirato. Giulio usa poche volte il martello. Beh, Cattane ne ha pur fatti di critici. Inizierò ad usarlo più spesso. È comunque più uno, quindi vuol dire più uno. A colpire più uno è il danno. E ti pare però anche non sia necessariamente al massimo delle sue possibilità. Mm-hmm. Questo vabbè è molto metagaming, la parte diciamo ovviamente del 2 di 10, però diciamo che ti dà la sensazione che un colpo ben assestato possa generare una scarica elettrica, cioè praticamente i tuoi poteri possano in qualche modo fuoriuscire dal martello con una potenza sconvolgente. Dovrò trovare un Sariti. Niente. Sì. E ci pensavo, sì. E in realtà non so se Kat aveva fatto vedere la sua arma, l'armaiolo. Sì, l'avevi fatta vedere. L'ho fatto vedere al capo di Lando. Sì, e lui ti aveva detto che non sapeva. No, che me l'ha detto. Che potevi tenere, sì. Però che era un'arma molto bella e che probabilmente un'arma che meritava anche essa un nome. Mm-hmm. E il nome è stato Flagello delle Streghe. Flagello delle Streghe. Mi aspettavo qualcosa però di più... Di più? Piratesco. Cioè non l'hai usato per uccidere le streghe. Vabbè. Quindi, flagello degli uccelli. Mi aspettavo qualcosa tipo vendetta, tipo... Beh, scusa, questa è la spada che userò per vendicarmi. Vabbè, ok, cioè, quello che vuoi. No, uso quella d'argento. Sembra giusto. Magari non... Spada streghe. Magari un licato. Spada streghe. No, per ora non gli hai dato un nome, gli puoi scegliere il nome. Mm-hmm. Ci penso. Certo, pensaci. E va bene, tu non avevi bisogno di altro? No, io se ho capito bene, quindi siamo in partenza su Arte Carovana, no? Per esatto, andare... sì. Allora, durante il viaggio uso le mie classiche ore che posso per leggere. Esatto, allora... Mi aggiorni tu di tanto in tanto. Vi viene illustrato parzialmente il viaggio, seguitelo un po' sulla mappa, potete usare la mappa quella oppure guardare sulla... Guardiamolo. Vabbè, non so. Ti posso rubare, Giulio, la cosa? Matita, gomma. C'è la struccia lì. Ma mi sa che non ce ne sono altre dentro. Volevo un po' ingrandirla. Vabbè, non riesco a ingrandirla. Ok, non l'ho ingrandito. Va bene. E guardatevelo pur qua. E allora praticamente seguirete il fiume. Vabbè, lo vedi il puntatore qui. Seguirete il fiume e arriverete. Se mi mettete tra gli alberi il puntatore, però. Beh, loro non lo vedono neanche. È un ente, magari, perché cammina. Già. E praticamente a quanto pare voi seguirete il fiume che si chiama La Lepre Bianca. No, abbiamo già svelato il titolo, pazzesco. Raggiungerete questo insediamento di selvaggi, poi popolazioni locali, che si chiama Due Fiumi, che è più o meno dove si incontrano appunto i due fiumi, che sono la piccola lepre e la grande lepre. E dopodiché lì vi ritroverete con altri che vengono degli altri, eccetera, e poi da lì vi verranno dati dei compiti più precisi all'interno della foresta. Uh-huh. Per arrivare lì, più o meno 2 giorni e mezzo per arrivare a Due Fiumi. 2 giorni e mezzo? Sì. Oh. Ok. Più o meno sì. E... ok. Va bene. Allora. Io devo recuperare anche delle ore, quindi più possibile durante il viaggio, anche se mi consideri distratto, sono a leggere. Sì. Allora, mi metto dove posso. Direi che puoi fare rinunciare a 2 delle 6 ore, tanto quando c'è il bivacco, sì, comunque sì, il fuoco c'è, sì, e sì, per sì. Cui puoi fare il primo giorno 10 ore. Ok, segno già tutto e poi vediamo il giorno, dai. O è già così, cioè non succede nulla il primo giorno. Direi che così va bene. Ok. Poi vabbè, adesso vediamo. Sì, sì, va bene. L'ultima volta una persona di cui mi fido poco, mi ha regalato un mantello strano. Volevo cercare di capire. Fallo vedere Giulio. Giulio è ispirato sui tiri di intelligenza dell'oggi. Ma no, io so che era magico, ho fatto un percepire magico e so che non è mai detto. Va bene. Poi magari cerco di spendo un po' di tempo per cercare di capire che cosa fa. Cioè, avrei anche un incantesimo che mi dice esattamente cosa fa un oggetto, ma non dovrei sprecare tutte le volte 100 metri d'oro. Vuoi fare un... cosa vuoi fare? Un... spendere un tempo di un riposo breve per esaminare l'oggetto. Sì, sì, beh, il tempo sul, nel viaggio ce l'hai. E mi tiri con intelligenza. E, vabbè. Fai basso così ti dice che serve a coprire la spalla. Due. Ecco. È di una fattura sicuramente pregiata. Non so, sai sicura che... cioè... è un mantello, è davvero un mantello. È di una fattura pregiata, però non sapresti dire in effetti quale possa essere il suo utilizzo. Ma qual è quello delle... Il Clock of Displacement. Ah, sì, ok. Io lo so, ma non gli ho deciso di non dire agli effetti perché potrebbe chiedermi come lo so. Invece... Ok. E... va bene. Va bene, il primo giorno, quindi proseguite. Nel secondo giorno... segno. Io inizio sempre la giornata facendo la stessa manovra di ieri, cioè leggendo la manovra. La manovra. E va bene, adesso su quello vediamo. Sì, sì. E in questo secondo giorno però di fatto voi ovviamente come avete visto c'è una foresta, l'altra parte non è foresta, siete arrivati all'inizio del fiume, lo state seguendo già. Però passate ovviamente anche per dei punti comunque di boscaglia, eccetera. A un certo punto c'è un grande rumore. Un'imboscaglia? Un'imboscaglia. No, praticamente vi trovate a dover... la carovana, siete, beh, alcuni carri sparsi. Ci sono anche Philip e Sirron, però non si trovano in questo momento con voi. Ah. E praticamente... ci sono dei bisonti che vi corrono incontro praticamente e sembrano praticamente impazziti per la paura. Quello che guida il vostro carro, che è un ranger che si chiama Kuran con la K. Non ti piace? No, mi piace la tua faccia quando si chiama... Non ci avevo pensato, ma è un buon nome. E praticamente fa in modo di evitare questi bisonti senza fare impazzire le renne. Così sono già evitati. Abbiamo già evitato i bisonti. Sì, però arrivate praticamente in questa mini vallata. Io volevo fare tanto. Ah no, sui bisonti. E mi lanciavo contro i bisonti tipo, e poi facevo tanto. Emergete però in questa spianata. È ancora tanto. Dove vedete questa grossa roccia sulla quale c'è un praticamente questo bisonte che sta venendo squartato da una creatura particolarmente grossa che però non può fallire che di notarvi. È sicuramente qualche forma di bisogno, è una specie di gigante gigantesco. Non si può descrivere. È un gigante. Io parlo gigante. Sì. E ora mi tirate l'iniziativa. Ok. Beh, certo, ma puoi parlarli. È questo qua. Ah, ok. Gigante. Gigante di ghiaccio, lo so, non ti piaccio. Ah, tenete di ghiaccio, non sono mica i giganti di ghiaccio. Tenete presente che ovviamente qui siamo alla fine della primavera, ma siamo molto a nord, quindi è freddo. È freddo e comunque spesso c'è la neve in giro, che qua spesso vede dei mucchi di neve, eccetera, eccetera. I miei amici sono giganti delle tempeste. Lo so, Giulio. No. Ora? Posso comunque parlare. Certo, parlare. Ah, quindi mi devo distrarre dal libro, vuol dire. Allora. Non combatti con il libro, adesso. Vabbè, tiro io. Allora, vediamo un po'. Giulio 19 di nuovo. 18, mamma mia. Non vedo. 7 più 4. e 11. Non lo vedo. Uno? No. Fatto due. Stiamo andando. Quake, sì. Va bene. Beh, oh, c'è una carovana di gente, perché dovrebbe picchiare noi. Gigante di ghiaccio. Sto... Così ci divertiamo un po'. Così. Va bene, sta a Giulio. A quanta distanza è? Da voi saranno più o meno i classici 9 metri, però è sopra di voi, su questa roccia. Allora facciamo che sono sì, 9 piedi, 30, 30 piedi insomma, però è sopra questa roccia, quindi dicevo. Ok, allora faccio casto, mi allontano un po', faccio un'azione di movimento. Sì, devi scendere proprio dal carro, cioè sei su questo carro al momento. Scendo dal carro, lontano un attimo. Sì. E casto spiriti guardiani. Che è quello che ti vengono tutte le robe attorno. Esatto. Un, run, una, un range di 15 piedi. 15 piedi da te. Vabbè. Il tuo turno è finito? Sì. Ora sta a Eric. E se è ancora sopra, io scendo anche dal carro. E mi preparo. Aspetto lì però. Non mi avvicino. Cosa prepari? Cioè, tiro fuori la spada e aspetto. Per fare un'azione? Esatto. No, no, questo voglio capire. No, no, no. Quindi questa... cioè, il tuo turno è finito. Sì. Questa volta gli spiriti sembrano dei draghi blu. Dei draghi blu. Ok. Chi se ne frega? Era per Feva. No, dico lui, non fa niente nel suo turno. Ah, vabbè, è su, non vado su da solo. Così. Devi fare altra cosa. Ah, un braccio e un martello. Allora, noi siamo all'8. No, non siete in lotta. Quanto ha di classe armatura? Livello 8. Ah, sì. Cattabriga, quanto ha di classe armatura? 19. Non ho ancora il buff. Esatto. Però allora, siccome gli state rovinando chiaramente il pranzo... Ci tira il pranzo? No. Ah, peccato. Però stacca una roccia da questa roccione, dov'è? Da questo orizzonte. E te lo lancia, questa briga. Ah, giochiamo a pallavolo. E ti fa... 25 danni. E spacca il carro. Mi fai un tiro di destrezza per vedere se mi rimani in piedi o se mi rimani sotto. Aspetta che me lo guardo, anche perché non lo vedo. È un bel 17, quindi un 16, quindi direi che è un tiro a salvezza, quindi no, è lontano 18. 18, va bene. Il carro si spacca, ma tu riesci, diciamo, comunque a mantenere un certo equilibrio. L'altra gente muore. Quella che era sul carro ancora. Sul carro c'eravate voi e questo della roba che stavate portando. E il ranger. E il ranger. Il ranger praticamente dice: tenetelo alla, dobbiamo fuggire da questo mostro. E e fugge nella foresta a chiamare aiuto. Sta a Quaker. Avete sentito? Scappiamo! No, non funziona così. Ah, dopodiché ovviamente il gigante vi ha lanciato sta roccia e dopodiché ha preso però un'ascia enorme. Ok. Un'ascia gigante. Sono abbastanza offeso. Si chiama letteralmente ascia gigante. Da questa accoglienza. No, si chiama grande Asher. Sì. Lui ha detto che è su una su una roccia? Sì, è sopra di voi. E per raggiungerlo che cosa bisogna fare? Allora, per raggiungerlo potresti fondamentalmente o cercare di fare un salto, dovrei anche avercele le prove tra l'altro. Allora, saltare, puoi fare in alto, con rincorsa di 10 piedi, puoi fare 3 piedi più forza. E da fermo invece i piedi sono 3 più la forza fratto 2. Quindi vabbè, quelli diciamo 10 piedi di rincorsa, può almeno, puoi fare 3 piedi più forza che è? La mia forza più 5, o il mio punteggio? No, 5, 5 credo. Ah sì, tu dici che sono pochi? No, non lo so, dice più forza o più modificatore? Io ci ho scritto forza, però non so cosa intendessi. In teoria modificatore. Secondo me anche modificatore. 8 piedi quanto sarebbero? Eh sì, sarebbe 2 metri, quindi direi che, che ha senso se non faresti sarebbe molto figo. Direi che con un salto del genere ce la potresti fare. Arrivare lì vicino e completare per attaccarlo potenzialmente. Però in realtà, so che ci penso, è a 30 piedi, quindi puoi saltare per arrivare dalla roccia fondamentalmente. Fallo scendere. Fallo scendere. Esatto, tra le due. Lo guardo in un'area di sfida. No. Summona le cose e gli guardo in cammino. No, c'è il. Ah, il povero. Povero cane non era sul carretto. Il cane era sul carretto anche lui. Mi fa anche lui un tiro d'estrezza. Oh. Cosa? 1, 20, va bene. Allora sta ce la fa. Sì, lo guardo con aria di sfida e sbatto la spada contro lo scudo. E uso la mia azione per prepararmi da attacchi incombenti, quindi prendo l'azione dodge. Quindi però adesso finisce il turno, quindi qua cosa succede? Quando lui che ti fino attacca al mio prossimo turno chi mi attacca svantaggio. E mi muovo di fronte a lui, in modo da essere il primo bersaglio in linea. Ci sta. Ah, sembrava mancasse qualcosa. Va bene. Allora, e sta a Arian. Io a questo punto evoco l'arma mistica, l'arma cosa, e attacco con l'arma. Non voglio fare. Tu quindi sei lì sotto Katta, giusto? Praticamente sì, però gli lascio lo spazio per scendere. Invoco la Spiritual Weapon e attacco. Che questa volta compare come un martello. Come un martello, cioè, molto simile a quello che ho in mano. Una domanda, a quanto distanza puoi farla questa cosa? Quanto 60 piedi. Sì, va bene. Oggi non ho. Devi mettere. Ok. È la terza 19, che fai, Giulio? 19 più 8, 27. Prendi. E quindi gli faccio un D8 danni. Il nostro chierico è talmente forte che quando attacca il campana sforma. Sì. Direi che è appropriato. Ah sì. 8 danni. 3 più 5, 8? Sì. Ok. 8 danni, va bene. D'accordo, sta a te Eric. Ok, sono messo il suono. Mi passi un attimo un giocatore. Sotto il master. No, sono io il master, testa di cazzo. E ancora. Beh, lui ha chiesto il giocatore. No, mi passi il giocatore. Ok. E quando ho detto sotto il master pensavo di cercare sotto di. Hai ancora una. E avere disagio generale, generalizzato. Ma tutto parte bene. Sì. Allora. Abbiamo anche il sottofondo campanaro. Allora, io. Lui non sono mosso perché sono prima di lui, mi pare. Devo fare un'altra cosa. Vai. Sta a te. No, devo fare un'altra cosa. Devo fare un'altra cosa. Ah no, sì, è vero, posso. Cantrip. Devo fare CD 16, cioè destrezza. 16? Sì, 16. 16. 16 non passa. E sono allora 2 di 8 danni. Il sacro di quello. Nove danni, va bene. Quindi Eric? Sono radianti. No, ti chiedevo, siccome sono prima di lui, lui non si è mosso giustamente, quindi è rimasto là sopra. Ah sì, non mi avevano fatto fare neanche dei tiri per conoscerla. Vabbè, la prossima volta se volete. Uh-huh. E... Ma io so che conosco il gigante, avrò familiarità. Cioè, non, magari non so le sue debolezze, ma che è un gigante del ghiaccio. Sì, puoi immaginare, certo, sì, ma non è un mosso particolarmente complicato. Allora. Sei rimasto lì. Sì, dimmi. Uso l'imbeccata di carta di prima. E non muovendomi appunto per arrivare da lui, aspetto che scenda. E uso. Mi faccio una prova per nascondermi dietro dei rottami del carro. Perché adesso è ingaggiato il gigante. Ma non voglio salire. Non è ingaggiato. Ingaggiato il carro. Sì, ma non voglio. No, ma a prescindere non andrei comunque su. Aspetto che scenda. Non valga come. No, infatti. Se ci sono dei rottami lì vicino, approfitto per nascondermi dietro a qualche pezzo del carro. Allora. Diciamo che lì puoi ottenere copertura, però di fatto non ti nascondi. Beh, il carro è grande, però se non ha spaccato in sì, mille. Sì, però in realtà non è che. Cioè, lui sa che tu sei lì dietro. Capito? Questo è il concetto. Ok. Cioè, e non è che se esci da un'altra parte del carro ne viene sorpreso. Allora sì, vabbè, anche come copertura lo faccio. Discorso diverso potrebbe. Discorso diverso potrebbe essere, però dovresti vedere un po' come la situazione rispetto alla roccia. Cioè, se vai tipo nella foresta. Se vai nella foresta, allora puoi fare un giro e nasconderti. Va bene copertura, tanto quello non sì. È che puntavo a opportunità o robe simili, quindi va bene anche come copertura. Non devi tirare, vai semplicemente dietro il carro e ti copri. Perfetto. Va bene. Allora, sta lui. Lui però non è che poi abbia così bisogno, cioè tu sei già lì in posizione, sei a 10 piedi da lui minimo e lui ti può beccare tranquillamente. Da sopra? Ci può scendere un gradino, 10 piedi di cosa. E quindi prova a colpirti. Con svantaggio. Con svantaggio, una volta, o tutte le volte. Tutti gli attacchi che riceve. Va bene. 19. Allora, uno bene. Molto 10. E l'altro no. Una volta quindi solo. Attimo solo. Okay. 27 danni. Con un attacco solo? Sì. Sta a Quakert. Ok, 27 meno 3, 24. Sono abbastanza. Sono danni normali, o cioè della roba. Ti ha tirato una sciata in faccia. Bene. Però è una sciata molto grande. No, in faccia no, sennò ti faceva molto male. Ti ha tirato una bella squarciata su addosso. Bene, allora abbastanza intimorito da ciò. Capisco che indietreggiando posso uscire dalla sua portata. Sì, presumibilmente sì, cioè sì, a un certo punto uscirai dalla sua portata. No, però dico se sono al limite o può beccare ancora più avanti stando lì, quanto sono lunghe le sue braccia. Vabbè, se va indietreggi un po' di 5-6 piedi dovresti poter essere fuori portata. cioè dovrebbe, dovrebbe avvicinarsi. Oppure okay, puoi salire un po' e combatterlo. Ah, non devo fare salti, ok. Posso arrivarci tranquillamente senza... Perché tu hai arrivato dalla pietra. Allora... Ah beh, giustamente. No, effettivamente vista la situazione, tu cosa andresti dentro un'area minacciata scalando, quindi rischieresti attacco d'opportunità, secondo me. No, quello no, perché sono già dentro l'area minacciata, esatto, dato che mi ha attaccato. Però se ti metti a scalare un minimo una roccia, per me te lo becchi, fondamentalmente. E per cui in realtà, sì, se in quella posizione lì sei un po' a rischio. Allora, disingaggio e dietreggio. Cioè non devi disingaggiare, in realtà, basta solo che riesci a indietreggiare. Cioè non so se funziona che devi disingaggiare. Sì, in un certo senso sì. Sono nella sua area minacciata, sì, se non è attaccato. Sì, no? quindi sì. Esatto. In realtà dopo, volendo, tu sì, potresti salire, diciamo, saltando, ed entri lì e poi attacchi, tipo carica. Mm-hmm. Credo, anzi, perché no. E va bene, quindi disingaggi e stai. No, è dietreggio. Ok, per allontanarmi il più possibile dalle sue mazzate. Mm-hmm. Va bene. Lasciate. Mazzate. Bisogna essere creativi. Sta a Arian. Allora, innanzitutto riattacca con l'arma. Sì. Quella, quando dicevate prima, non so se è ingaggiato o meno, parlavate degli spiriti o dell'arma? 19. È il quarto 19 che fai, vedi? Sì. Vedi che i critici si avvicinano. Scusa? Quando dicevate prima, non so se è ingaggiato, forse non conto, dicevi degli spiriti o di quest'arma? Dell'arma. No, gli spiriti sicuramente. No, gli spiriti no, perché lui è lontano. Ok, ok. Sono 7 danni dell'arma. Sì. E poi gli fai quello di prima? No, poi casto Warding Bond. Mm-hmm. Quello con catta? Mm-hmm. Sì, però aspetta che guardo che se mi devo avvicinare. Allora, intanto può agire Eric, se vuole. Avvicinato io. È rimasto su, quindi anche sì, su lui si allontana. Sì. Ok, touch è l'anello. Non è ingaggiato. Lo so. No, ma non è tanto per che non voglio salire. Ah no, ti ho toccato. Ma sono venuto indietro, A che distanza sei? Sì, non ho capito di quanto, però. Nel mio movimento. Ah, tutto, quindi si è arretrato tutto. Hai fatto un movimento per arrivare da lui e cazzo. Io dove sono adesso non sono in portata, vero? Mm? Dove sono adesso non sono in portata. No, però okay, sei davanti a loro di fatto ora. Sei perché quello più avanzato. Sei loro. Quello più avanzato, okay, sì. Allora, mi sposto con loro, li raggiungo, mm-hmm, e lancio una freccia con l'arco. Mm-hmm. Sono così, iniziamo a fare qualche danno, dai. Forse. Ai soliti più uno. È la giornata, la giornata del 19. Siamo caricati ieri sera qua. Totale, aspetta, l'arco dovrebbe essere da 6. Giusto per questo. Ah, 27, scusa. Totale. Mm-hmm. Ok, danni? Bellissimi questi danni. Sono 6. 6 danni. Ma neanche il furtivo. È una posizione sfigata. Non so se si degna di scendere. Allora, visto che vi siete allontanati, avrei potuto spendere altri minuti a leggere il libro invece di questo. Lui poggia l'ascia e vi lancia una roccia. Lo sapevo che non dovevo la dire, lancia raggiungo tutti insieme. Ah, Quaker, che è quello che. No. Mm-hmm. Però sono tutti più lì, almeno io. Adesso è 20. No, non c'è 20. Mm-hmm. Dipende da quanto è grande la roccia. È comunque un miss, cioè come se tu non hai una freccia. Allora, andate abbastanza bene per te. Sono solo 19 danni, no? 17 danni. Quindi, ah, no, ti prendo sempre. Quindi 14. Ti prendo 7. Ok. Sta a Quakert. Hai 29 danni. Cura. Sicuro che sono acqua. Un colpo non ti tira lì. Allora. Forse neanche con due perché comunque. Ma l'avevi messo il mantello? Sì, stavo indossando il mantello. Anche se non sai cosa fai, in teoria funziona. Quindi avrebbe. Lo so, io lo so. Avresti dovuto tirare adesso. Hai il mantello addosso lui, Ti ricordo. No, io non avevo capito che aveva il mantello addosso. Sì. Mi indosso il mantello. L'avevi detto prima. Dalla prossima. No, lui mi ha detto che guardava cos'era il mantello, ma non mi ha mai detto che si metteva il mantello. Va bene. Allora dalla prossima ho il mantello addosso. Anche perché le altre volte non l'avevi indosso. No, le altre volte. Quindi io non potevo sapere. Anche perché l'avevo dato prima di quindi. Oltre al fatto che. No, beh, presumibilmente sì, la puoi prendere una roccia. Sì. Però devi tirare tu. Non mi ricordo esattamente come funziona, però ogni attacco, se non ho letto male. Però non avendomi detto che aveva il mantello, io considero che non aveva il mantello. Ora considera che ce l'abbia. Puoi interagire con un oggetto e metterti il mantello? Sì. Sì, mettiamola così a livello di gioco. Gli dico mettilo. Io. No, però cioè, anche da prima, ma non gliel'ho detto. Quindi te l'avevo detto io cosa faceva? A me sì. E non. Ce lo siamo scritti però? Non mi ricordo se è quello che è quello che bisogna. Guardatelo lì. È quello che bisogna leggere. Non mi ricordo se lo devi creare di tuo. Intanto vado a guardare che ci guardiamo dopo. Intanto mi dice Quaker cosa fa. Uso la mia azione per curarmi. E mi curo, sono a 29, hai detto. 29 danni? Di 31. Va bene. E poi posso usare la mezza di movimento per saltargli in corpo a corpo? O è troppo lontano? Beh, puoi arrivare nella sua area, però non puoi fare altro, già fatto delle tue azioni. No, no, non per attaccarlo, per essergli in corpo a corpo. Cioè, io non ho capito, tu hai fatto, hai interagito con un oggetto. E mi sono messo il mantello. Poi mi sono quella è un'azione gratuita. Sì. Poi mi sono curato della mia azione. Mi rimane il movimento. E ti rimane il movimento. Tu puoi fare 30 piedi. Andare in corpo a corpo. Ma tu. Se posso, sì, se è troppo lontano. Diciamo che puoi saltare sulla roccia. Poi dopo non arrivi esattamente a 5 da lui, arrivi a 10. Però puoi saltare sopra, sì. Facciamo così. Ti leggo il volo. E salti degli 8, quindi si arrivi su. Ti leggo il volo, tanto. Praticamente non sei tu a decidere di farlo. E dice che quando metti il mantello funziona. E hai un'immagine di fianco a te illusoria. Che sta vicino a te, proprio. E tutti quelli che fanno i tiri per colpire. No. Causing any creature to have disadvantage. Ah, perché quello è l'altro. Ups. Quindi hanno sempre svantaggio. Se lo colpiscono per quel turno la cosa cessa, quindi il secondo, terzo, quarto attacco, quello che è, lo becca, non è, però ogni turno ricrea. Va bene, perfetto. Quindi sempre svantaggio. Molto bene. Allora sta a salto, ho salto così sulla pietra. Va bene, sei ogni turno dovrebbe essere, sì. Però sei nell'area minacciata, entrato nell'area minacciata, sì. Ti becchi l'attacco d'opportunità forse. Sono entrato, non sono uscito. Sei entrato, quindi non uscito, va bene. Sì, qui dice che se prendi danno la proprietà cessa fino all'inizio del prossimo turno. Va bene. Arian? Attacco sempre con la spada. Si prende con la spada con l'altro. Aspetta. Questa volta è. Un 8, 16. 10 piedi. 16 prende. Io comunque sarei comunque più lento. E quindi sono. non arrivo neanche danni. Neanche nella vicinata. 8 danni. La freccia la potenza. Sì, no, no, ma rimango là. Poi... No, quello è certo. Sì, sì. Però dico, devi... mi sa che adesso toccherà a te. Sì, sì, sì, sono io sempre non... arco. Sì, sì. Ok, però io non sono ancora non so, a 5 piedi da lui. Sì, sì. Gli dico so. Di preparare l'azione, che quando io mi avvicino a 5 piedi da lui, lo attacco. Perché altrimenti non è possiamo fare anche così. Sì, dai, poi possiamo fare così, va bene. A quanta distanza sei? 10. No, ok, questo non ha senso farlo. Che danno. Da freddo. Un po' buio, vogliamo provare con la luce. Vabbè, dai, è un po' che non lo faccio. Ehi. E faccio call lighting. Cosa succede? Compaiono delle nubi tempestose e io tipo col martello indico il gigante e un fulmine casca. Deve fare un tiro salvezza? Sì. Sulla? Destrezza 16. Dovevo dico di quarto livello. Non passa. Non passa, allora si becca 4 di 10. Ah, però. E userò il mio channel divinity per massimizzarli. Quindi 40 danni. Ah, non ti chiamo. Però. Va bene. Ok, a questo punto lui è molto... Tocca a me. Sì. Preparo l'azione per attaccare quando lui arriva in corpo a corpo. Sì, quando lui attacca, dopo aver attaccato, sì. Tu spari, sì. Se ho capito bene. Sì. Ok, va bene. Allora sta lui, e a questo punto proverà a combattere contro Quakert. Mm-hmm. Il tira con svantaggio, se ho capito bene. Yeppa. Mm-hmm. Però la tua armatura di quei 30 adesso. Ok, non lo becca, quindi continua a tirare con svantaggio, giusto? Sì. Sì. Sembra molto forte, però l'ho letto così. Ok. Il secondo becca. E sono 23 danni. Quindi 20, quindi 10, 10. Ah, io devo fare... concentrazione. Com'è pure lo shove? Spingi via. Prova e lo contrapposta. E lo puoi fare come azione. Con un gigante. Invece di un attacco. Invece di uno dei due attacchi potrebbe farlo. Cioè, lo vuoi spingere su un gigante? No, lui lo vuoi spingere. Ah, potrei okay. Farlo io però. Ok. Ci potrebbe stare, ci butta giù. Oppure lui è large o è più grande di large? Lui è huge. Ok, non mi chiedo, no. Concentrazione è CD 10 o la metà dei danni? Sta Quaker, direi. Quindi 10 sta Quaker. Sì, devo fare CD di concentrazione contro i danni subiti. Ah, perché hai preso, sì, lui ha preso dei danni. Perché sennò il lighting va via. Vediamo. È un 4. Mi sa che va via. Va bene. Almeno i suoi 40 danni. Quaker. Bene, è ora di sfruttare questa arma che hai. Esatto. Quindi faccio. È vero, ora Katta è super potente, sì, in combattimento. Sono tipo. No, sei passato dopo, da. Dopo ricontrollo, perché. No, ci sta, mi pareva che fosse un oggetto figo. La cosa che lo ricrea comunque ogni turno, anche dopo essere stato colpito, è veramente forte. Dopo ce la guardi. Anzi, sparamelo. Era forse anche scritto. Esiste, lo faccio. Quindi attivo il mio channel divinity. Per fare il giuramento di inimicizia nei suoi confronti. Come azione bonus. Nella parte finale quella cosa lì. Ti ascolto, Katta. E questo mi dà vantaggio agli attacchi che gli faccio per un minuto. e poi gli do la prima spadata. Ok. 22. 22 prende. Ah sì, non ho fatto vedere la scena. Va bene, vai. Diciamo che per sicurezza uno slottino di primo livello lo consumo. Quindi massimizzi? No, quindi tiro 2 di 8 in più. Vediamoli allora. Più 1 per la spada. Più 2 per la spada. Più un di 8 per la spada e poi sì. Il modificatore è in totale un più 7, quindi faccio 18 danni col primo attacco e poi faccio il secondo attacco. 24. Sì, prende e gli do un colpo normale. 8 danni. Ok. Sta a Arian. Ah no, sta a Arian. Io. Vai. Non vedo. 14. Ah, 4 più 8. 22. Sì, prendi. Furtivo? Sì. Vai. Qua. Allora, 4 e 5. Vedo quell'arco, no? Sì. Non li vedo tutti. 6, 6, 3, 3, 2. 14. Allora, 6, 6, 12, 14, 17, 20. 25. Vero. Ok. Ok, ok, ok. Sta a Arian. Mi attacco con la spada. Sì. È un 16, prende? 16 più 8. Danni. 2. 7 danni. 7 danni. E poi... e poi mi avvicino con un'azione di è quello che riesco 30 piedi. Ok, quindi vai lì. Ok, sta a Eric di nuovo. Attacco direttamente visto che è ingazzato sempre arco. 22 di nuovo. Sono 12, 17, l'ultimo non lo vedo. 17 più 4, 21, 26 totale. 26 totale. Ok. E d'accordo. Allora, sta a lui. Si deve prendere i danni? Deve. Sì, deve fare il test su. Wisdom. Wisdom. Allora, non lo passa, cosa succede? Un attacco di 8 danni. Ok. Necrotici. No, usiamo questi dati che non mi vedo. Ah, ne hai comprato un altro? No, è che sono sempre quelli che ho comprato tipo... Di blocco. Un blocco, però alla fine... non si tirano così tanti danni. Così tanti danni. 6, 3, 9 danni. Quanto? 9. 9 danni. Ok. Aspetta, sì. Lui è. La sua velocità è dimezzata. Basta. Ok. Continuerà a provare ad attaccare Kat con svantaggio. Allora, però becca. Quindi. Gli fa. Oh, stavolta sì che l'ha colpito bene. E sono 35 danni. 32, 16. Ok. E boh, provo a colpire un'altra volta, dai. Non attaccando normalmente perché non c'è più la... Non c'è più la... Se non c'è lo svantaggio. Già. però non ti becca. Il 34, già. Sta proprio a quel card. Ad attaccarlo. Sì. Ah, scusa. 26. Aspetta. Lascia. Con vantaggio. Ah, perché... ho fatto il giuramento di nemicizia. Sì, giusto. Preso. Parliamo le buone abitudini. Mi caso un altro slot per fare due di 8 in più. Diciotto danni? No, 18 più 7 25. Sì. Morto. Oh. Misa? Sì. L'ho pompato un po' per credere perché era divertente. Questo mi piace, sono i mostri che mi piacciono, semplici, che fanno botte. Un sacco di danni. Non uso una magia che non conosci. Esatto, hanno robe strane. E beh. Mi faccio anche il secondo già che ci sono. Ma è morto. Quella testa si sta proprio bene nella mia. Magari poi lo faccio anche rivedere. No, dopo non vuole venire fuori 20. Io faccio due cure su di me e una su Katta. Sì. Quella su Katta e quella verde. Non la vedo. Ah, bravo. Ops. Siamo favoritismi. Uno. Mentre io ho fatto 8 e 7 nel terreno. Ok. Katta ti curo di 6. E io mi curo di 15, 20, 25. Sì. Buon samaritano. Beh dai, così tu sei adesso sei andato a 40 tondi. E io sono full vita da 30. No, sono a 55. Torna l'amico con i rinforzi? Allora, io direi... Il gigante aveva qualcosa? Io direi... Ha un lascia enorme lì. Io direi... Quindi... Quindi tu sei andato a fare le cure varie, va bene. Mentre siete lì in giro... Poi fanno altri 4 giganti. No. 8. No. Però direi che mi fa il buon vecchio Laz. Mi fa un bel tiro, anzi percezione passiva quanto 14. Hai? Quanto hai? 14. Quello? 15. Ok, vai più 5. E quando l'ho cambiato? Ah, perché l'ho cambiato adesso? Ah, sì, 15. Sì. E... Tenete conto che la terra... Smetti di girare. Stavo per dire la stessa cosa. Vicino a te, cioè c'è qualche rumore oscuro che proviene dalla terra. Oh. Mai scorderai l'attimo la terra che trema, non fa un rumore oscuro. Cosa volete fare? Volete tenere le stesse iniziative? O ritiriamo le iniziative? Non passa neanche un round. Beh, lui ha fatto delle cure, quindi no, qualche pochino è passato. Direi che ritiriamo allora le iniziative. Avviso loro, giustamente, essendo sta cosa. Va. Quindi tiratemi le vostre iniziative. Direi che niente allo sprovvisto. Arian. 1 stavolta io faccio Quaker. No, io allora cos'è? 10 14 0 Zero. Tu non giocherai con noi. Allora. Cos'è, un gigante di terra? Allora, no, però. Un giro di tutto. Sarà quello del tempesta. Come siete messi come vita? Io ho 55, qui 40 e full tutto. Ma sì. Meglio abbondare che difficile, giusto? No. Allora, praticamente cosa succede? Eric sta prima a te. C'è qualcosa nel terreno che si sta muovendo, si sta avvicinando a te. Hai possibilità più che altro o di fare un'azione di qualche tipo oppure di prepararla. Sì, faccio. Beh, hai detto che si sente qualcosa di oscuro. Cioè, senti quindi tipo come dei movimenti sottoterra e boh, hai la sensazione che sia qualcosa di allora, pericoloso. Allora, se ho questa cosa tipo qua. Io e Katta siamo sulla roccia. Io e Katta siamo sulla roccia. Sì, presumibilmente sì. E lui è sotto. Esatto, non mi sposto sulla roccia, mi sposto dal punto in cui sento che sta per uscire qualcosa. E mi preparo ad attaccare appena vedo qualcosa uscire fuori. Quindi appena vedi qualcosa tu spada, spari. Spada. Ah, spada? Sì. Quindi quando ti arriva addosso. Sì, cioè mi sposto dal punto esatto dove sento la cosa, ma lì di fianco, pronto all'azione. Insomma, dai. Cioè se lo vedi puoi. Sì, esatto. No, non. In realtà cosa? Non in. Devi preparare un'azione, quindi sì, fondamentalmente no, puoi non contrattaccare. No, roba alla sprovvista, eccetera. No. Quello no. Allora, praticamente dalla terra esce fuori un bullet. Il bullet classico, cioè quella roba, lo squalo di terra, no? Quanti. Ah, ok. Esatto. Però è un bullet un po' diverso da quelli abituali, nel senso che in realtà c'ha sopra anche del gran pelo. E, è un bullet peloso, evidentemente, con pelo anche bianco, evidentemente sono del posto. Facci vedere la foto, dai. Il bullet normalmente è così. No, non c'è quello col pelo no, bianco. Quello mio è un mio flavor che ho inventato io, visto che siamo al nord, saranno dei mostri un po' diversi. Ragionevole. Ci saranno un pochino diversi, c'ha un po' di pelo e un po' diversi. Comunque, non c'è motivo per cui lui però non esca e che provi ad attaccarti. Ha fatto più iniziativa lui di me? No, hai fatto più tu, infatti tu hai preparato l'azione. Però però se è uscito, attacco. Ma non è uscito di fianco a te. Ah, ok. Quindi okay. Se tu vuoi attaccare, ti arriverà addosso. Okay, quindi lui ti arriverà addosso. Ok. Boh, sì, lo faccio ad attaccare anche prima te. No, era per sapere, se non è vicino si sta. Vai. Però poi lui ti attacca, perché sì. Le cose non sono. Quindi vai, intanto attacca tu. Devo tirare qualcosa di diverso per colpire con l'arma nuova. L'arma nuova. Sì. Che ti avevo detto. Non è uno stocco questo. Sì. Questo che ho sì. Eccolo qua. No, se ho il più a colpire cosa varia. No, non devi fare niente. Cos'è? 9 o 6? Regolo 6. 6 e 8. 14. 14 non basta per colpirlo. Okay. D'altra parte, vediamo se lui ce la fa. Ah, però bello. Allora, casa armatura e quindi ti colpisce, però. Ah beh, ho capito. Possono fare o l'una o l'altra, penso. Quindi facciamo che questo ti morde normalmente, esce e ti morde. Ok. Ti uso. Aspetta, è stato il mio turno, quindi ancora posso dirtelo. Visto che non l'ho usato, ti uso la reazione per dimezzare. Sì. Ho perso il dado, però. Allora, intanto sono. Giulione, vai tu sempre. Un danno, sì. Hai tu. Lo sento. Sono 22 danni. Dimezzati? Dimezzati sono 11. Ah, ok. Porca puttana. Io ve li do interi, poi ci siete voi. Ok. Allora, però ne esce anche un altro fuori. Sapevo che andava a finire così. Allora, se ho che interpretato bene questo tipo di cosa, se fa almeno 15 piedi, come il suo movimento, carica, può usare la sua azione per arrivare sui suoi piedi in uno spazio che contiene una o più creature. Qui ce n'è una. In una di queste deve superare un tiro di salvezza. E quindi me lo devi fare questo tiro salvezza. Io? O destrezza o saggezza in realtà. O destrezza o scusa, o forza. Destrezza direi. Bene. Su solo destrezza? Vai, o... fammi un tiro salvezza. Vai. Ah, tiro okay. Salvezza. No. Quello che... 12. Più 8. E un questo 20. Qua. Quindi lo passi, quindi prenderai solo no, metà. No, aspetta, di cosa stiamo parlando? Di un effetto aereo o no? No, è lui semplicemente arriva e ti tira uno sganascio, okay. Cioè ti si appoggia. Danno diretto, insomma, ok. E quindi tu prenderai però meno, dice, la creatura prende solo metà danno, e cade a terra ed è allontanata 5 piedi dallo spazio cade da bolletta. A terra, se lo passi no? E no, se ho una successful. Ah, ok. Quindi in ogni cadi caso, e vieni spazzato via. Pensa se non lo passi cosa succede. Però prendi metà dei danni, aspetta, io sono occupy space. Ok. No, va bene. E adesso vediamo per i danni. Un attimo solo. Vabbè. Sì, vediamo allora. No, non ne prendo. Eh? Non ne prendo. Perché lui li... Ah, è per quello che dicevo se era un effetto d'aria o no. Cioè, io se passo il tiro non prendo. Ah, sì, non mezzo, c'entra basta. Con l'aria. Niente, allora. E di mezza se fallisce. No, esatto. Perché probabilmente non è aria, no? No, è danno ad aria, però è vision, no, leggi bene. È per quello che chiedevo se è danno diretto o no. Tutte le volte che devi fare un tiro salvezza sulla destra. Anche danno diretto? La salvezza sì. Sì, non li prendi, okay, allora. Non dobbiamo... Sì, come questo. Non avevo capito che era solo d'aria. Se fallisci ne prendi solo metà comunque. Sì. Però le altre sfighe se ci sono, quindi ti capitano lo stesso. Ma sì, vabbè, sono così senza esagerare. Va bene, allora... dopodiché sta Arian. Ma gli spiriti li hai ancora? Sì, non sono da me. No, dico da lì, è già. Secondo me no. 10 minuti. Vabbè, non però li avrai tolti dopo il combattimento. Secondo me. Cioè, avrebbe più senso. Sei stato lì con gli spiriti in giro per curare. E lì sarà passato un minuto neanche. La strada non c'è più. Però. Cioè, ho fatto due cure e c'è stato lo scontro. Se tu mi dici no, avete fatto altro, però magari non sono neanche sulla no, roccia. Però nel senso... Okay. Visto che dicevamo del discorso che comunque un po' di tempo era passato, avevi fatto le varie cure, mi sembrava la cosa più sensata che tu l'avessi tolta. Ho fatte due, quanto tempo dipende da quanto tempo è passato, cioè sono passati no. 2 minuti, no, è no, passato 10 minuti. Nel senso, ovviamente tu non mi hai detto tolgo l'effetto, però diciamo, a meno che non ci sia un pericolo immediato. Beh, io avvisare li ho avvisati. No, allora... sì, ma lui intanto ha tirato per 3 cure, vuol dire okay. Che ha avuto tempo di fare 3 cure, quindi sono passati almeno 3 round. Quindi mi fa un po' strano che lui si sia tenuto intanto i draghi che gli giravano attorno mentre andava in giro a fare le cure. Tutti gli incantesimi, quando uso degli incantesimi che durano e che non finiscono, io li tolgo se mi muovo, se no non ha senso. Beh, ti sei mosso. No, se mi muovo, cioè... Abbiamo finito, andiamo via. Carovana. Sì, no, non lo so. Vabbè, diciamo che non avendomi tu detto ovviamente lo tolgo, lo possiamo tenere. Mi fa un po' strano che tu ce l'abbia, però vabbè. Vabbè, non ce l'ho, uguale. No, no, vai, vai. Allora, pari non ce l'ho, disparisco. Questo mi piace. Vai. Pari. Cosa avevi detto? Ce pari? Ce l'hai, vai. 4, sì. È in bilico? No, sì. Credo che è l'unico modo che... se non è un 4 o 18. Allora ritiralo. 1. Non ce l'hai. Yeah. Vai. Ci sono quindi questi due cosi che hanno attaccato... Questi due robi pelosi, yeah, ma al tempo stesso squartosi. Ah, mi puoi fare un tiro natura intanto per vedere se conosci questa roba. È un 6? Sì. Mm. Lo posso fare anch'io? Questo manno... Sì, fatemelo... intelligenza, sì. Allora. 3. 17. Tu conosci bene Kat. E vabbè, posso dirtelo tanto... Allora, il bullet praticamente... intanto è un po' strano che, da quello che sai, che siano due. Mm-hmm. Forse si stavano accoppiando. E perché di solito è così. Quanto pare, però sicuramente gli ha attratto una cosa che a loro amano tantissimo. Mm-hmm. Questo tu proprio lo sai, cioè la carne di Alfin per loro è il, cioè, la cosa più buona che esista. E niente, vengono fuori dalla terra e mangiano. Avrei detto le vibrazioni dei massi che ci lanciava il gigante. Sono delle specie di aberrazioni, si dice che siano stati creati da dei maghi pazzi, robe varie, almeno così dicono le leggende. Vai. Io farò Sacred Flame più di 16 più. Lo passa. Lo passa per niente, metà? Nessuno. Nessuno. E comunque sto lì sulla roccia perché... Sì. Per il momento sto sulla roccia. Quakert. Saluto l'amico Alfling. Ah, siamo al sicuro su questa roccia. Quanto sono distanti? Sono tutte e due su di lui, giusto? Sì. Quanto sono distanti da noi? 30. Ero nella zona quando voi siete partiti per andare al gigante, sarà 30. Sì, direi che comunque con un movimento ci arrivi. Vanno lì, carico l'Alfin in spalla e faccio misty step per tornare indietro. Davvero? Ma se vuoi la cara di Alfin arriva sulla roccia. Vabbè, però almeno più non perdi. Tu comunque la guarding bond ce l'hai ancora? Sì, quello d'ora. Però rimango comunque a 40 pf da quello che inizio. E tu hai appena fatto il tuo turno, giusto Giulio? Mm-hmm. E io sono l'ultimo. Che scomodo. Vediamo un po'. Lo farei. Richiamare con un fischio molto, mettendo le mie due dita in bocca, il mio fido bracco e ne abbiamo già attaccato uno dei due, no? Sono tutti perfettamente in salute. Va bene, quindi scendo dalla roccia come per attaccarlo e dico il mio destriero, il mio compagno animale, di distrarlo per permettermi di colpirlo meglio. Quindi ok, va, andate giù e colpite. Sì. Vai, il primo che trovo. Vai. C'è un 10 o un 2? 20. 20 colpisce. 7 14 Mi piace questo gioco. Perché? Tipo vedo un numero e tu hai tipo il triplo, il doppio, no, esattamente 7, il doppio. 7 più 7 fa 14. 10 20 7 14 Io secondo attacco. 1, 150. Cosa? Non ho vantaggio qui. 11, quindi deduco 22. È 21. Prende. Aspetta, prima era 14, giusto? Prima erano 14, 7 più 7, 14. Perché ci sono 71 persone a cui piace la pagina Tycoons and Dragons e siamo seguiti da 72? È un grande mistero, ma è così da tantissimo tempo. Presumo che uno sia io, forse spurio. Non lo so. Cioè, sono più persone che seguono di quelle che hanno fatto solo seguire. C'è un'ombra. Ma segui e non ha messo mi piace. Ma hai finito tu? Tu no? Quindi sto tirando i danni dell'ultimo attacco. Tu mi hai detto che sono aberrazioni. Ho delle base contro le aberrazioni. Adesso che mi ci fai pensare. Cosa facciamo? Ordiniamo comunque? Sì, dobbiamo mangiare. Cosa facciamo oggi allora? Boh, sono tutti non bene, farei più bambini. Anche a me va bene, anche a me. Beh, no. Adesso l'abbiamo preso quella volta che lui si è lamentato. Sì, beh, tanto quello è il posto. Non abbiamo un kebab gratis lì. Ti ricordi? E fammi vedere un attimo qua, Divine Smite. Kebab di unità. Se è un Dead of Fiend. No, non è nessuno dei due. Va bene. E quindi faccio un altro stronzissimo di 8, 4 e 7, 15. Cosa ridi? Gli hai dato tu sta spada. È vero. Però non è solo, cioè la spada fiera dà un più 2. Vabbè, scusa. No, ma sì, ma ci sta. Giustamente, per farmi divertire. Io non so dare più 2. Uffa. No, non c'è. Non l'ho ancora usata, allora, quindi non lo so, usato. Però. No. L'hai mancato. L'hai mancato. Ok, sempre sullo stesso che era stato colpito. Che non era stato colpito. Da due. Sì. Va bene, questo era Quakert. Ora sta Eric. Direi che ci si riprova a colpire. Quindi ti alzi. Sì. Arma. No, alla fine se non ho preso danni non mi ha buttato per terra. Ti ha buttato per terra. Comunque. Quello ok. Succede comunque. Beh, hai detto che però ero 5 piedi. Ti alzi, ti avvicini e colpisci? Sì. Vai. Su quello ferito immagino. Sì. Ed è un 9 più? Ah, stavolta è 17. 17 e prende. Sta buono. Tiro i miei soliti. Furtivo? Sì, no, dico altro. Dell'arma, no? No. 10, 16, 20, 23 e più 5, 28. 28. Ah, aspetta, considerato che l'arma fa sempre il D8, come quello che ho. Sì. Ok, perfetto. Per ora non hai notato particolare miglioria. Stai Bullet, che finalmente si vedono la loro carne preferita nella zona. Uno non può che affondare un morso della carne. Dipende se se la fa prendere. Sì, sì. Si gusta tutto. Ti uso la reazione per fare il dodge. Va bene. Oh, gustoso. Oh, 41 danni. Di mezza. Quindi 21? 41? Cos'è, 20 o... In totale due attacchi. Un attacco. 41. Cioè, ha fatto 41 danni? Ma hai crittato? Sono 20. Come? No! Che cazzo è? Arriva il secondo. Il secondo però non becca, mi sa. Quanto hai? 15. Cato. Cazzo. 29. Cosa posso fare? Ah, niente, è gustoso. Ora sta a Giulio. Cerca di buttarne giù. Allora, invece per sono... quanto riguarda il... Sono tutti attaccati a te, non posso fare. No, no, no, cerchiamo di buttarne giù uno. Posso fare protezione su Giulio. Ho lanciato una cura. Il primo in generale lo di mezzo. Anche non so una roba strana. Ancora dovrei toccare. Allora, volete fare il kebab, avete detto? Siete sicuri? Guardate che ci sono un sacco di sconti per. C'è il cura macchina. Io sono aperto anche ad altre soluzioni, basta che non sia pizza, visto vi che dico. Sono due giorni che mangio pizza. Pizza Sangria speciale 30%, amore American chicken burger 30%, pizza sticks, pizza però costa molto. Oddio. 20% yakoi con giapponese. Andiamo a vedere se c'è qualche kebabaro o andiamo dal solito. Volete vedere se c'è qualche kebabaro che ha uno sconto oppure andiamo dal solito senza. Allora, intanto vediamo. Questo che è pizza kebab fa il 30% di sconto. Dov'è? Non è neanche lontano. Pizza speciale, però non ha tante possibilità. Facciamo il solito. Facciamo il solito, ve lo passo così potete. A me il piatto come l'altra volta era, no? Cos'è quello che. Quello che mi hai fatto prendere. Kebab in piatto? Mi sembrava fosse quello? Non so. Kebab in piatto vuoi? Che ha le cose divise e il pane a parte, no? Non è quello lì. Sì, puoi scegliere le salse, piccante o non piccante. Che sai che non voglio, quindi prendi quello che vuoi tu. E tu la roba? Cioè cipolla o no cipolla? No, il resto va bene tutto. Cipolla sì o no? Sì. Il resto va bene tutto. Il kebab, quello. Ketchup, maionese o yogurt, una delle tre, devi scegliere. Metti quello che volete voi, ve la do. Non la mangio io, una che volete voi. Yogurt, di fatto. Cazzo, non so. Cioè, su quello che vi va. Cioè. Ma quello che faceva quei kebab assurdo? Sì, questo qua. Quello che vuoi tu penso sia il Taj Mahal Special. Carne di gira arrosto, pollo macinato al forno, falafel con insalata, no, salsa no. E patate fritte. Forse l'ho preso una volta, però cambiamo. Beh, allora mi sa che anch'io farò un kebab in piatto. Due kebab in piatto. Credo sì, intanto vi passo. E no, aspetta, prima tu devi giocare. Sì. Allora. Non perdiamo. Vabbè. In un impeto di coraggio. Ti butto giù dalla roccia. Ma ci arrivo o un bullet? Sì. Allora arrivo e attacco. Vai. Ferito? Ce n'è uno ferito? Sì. Ok, su quello ferito. Col martellone considera più uno. Pronto. Tutte quelle armi belle. E... 14 più... Perché non fai un critico? 20. 20 colpisci. Anzi, 21. No, 20. Quindi... Beh, posso usarlo a due mani e fare un 10. Vai. Un 10 più 1. E inoltre io posso infondere energia di tuono in questo caso alle mie armi. Direi che e quindi problemi. Di 8 in più. Vai. E faccio 5, 9, più 2 di forza 11, più 1 del martello 12 danni. 12 danni? Sì. Ho fatto un po' di tiro del cavolo. Bassi, 5, bassi. 5 sul 10. Un po' aggressivo per uno che sta venendo salvato dai suoi compagni. Va bene. Sta a Quakert. Abbatti pure come ha messo il nostro amico Alfin? 29. E allora, visto che ho notato che hanno un certo appetito per la sua carne e che la mia conoscenza profonda di queste creature mi ha detto che sono aberrazioni. Sì. Appoggerò una mano sulla spalla del Monstruosity. Un aberration. Monstruosity c'è scritto. È il tipo? Sì. Che tipo è il Monstruosity? Non credo che sia aberration. È diverso da aberrazione. Sì. Allora mi sa che devi morire. Cioè, non so se è la stessa cosa. Però questi sono i Fiend, Undead, scusa se sono tipologie qua, Quello di Lasma con il ketchup e la cipolla. Quindi quello che era il ketchup c'è la cipolla. Ma insomma piatto, eh? Ah, quello. Sì. Oh, come mi fa come frutto? Come però hai messo il yogurt? No, esiste la aberration. Questi non lo so. Allora, no, questi sono monstrosity. Allora, sono mostri nel senso più stretto. Creature spaventose che non sono ordinarie, non del tutto naturali, e mai quasi mai buone, okay, benigne. Basta sapere che sono alcune sono il risultato di risultati magici che sono andati male. Okay. Altri sono il prodotto di una di terribili maledizioni, diciamo non fanno parte di una categoria. Vabbè. È una la classica categoria che prende un po' tutto, diciamo. Standard. Quindi non è un'aberrazione. Peccato. No. Allora niente, dico al Bracco di distrarlo e quando ne approfitto della tu! Distrazione. Guarda Bracco come distrae. Fai partire l'ordine, che è più importante. Sì. Cosa avete preso? Mentre sei distratto. Maxi che doppio bene. Maxi. Perché volevate prendere qualcosa di più. Che costava 6. Cioè io avrei contato 6. Però ho detto, ma è nato costa 5. Non ci sono spese di. Quant'è il piatto invece? 5. Ok. Va bene. Partito l'ordine. Vai al checkout. Vai, intanto chi sta? Quaker, vai. Attaccando. Mostrami. Devo farti ordinare con calma, così siamo sicuri. Che andrà. C'è un 6 e un 1. Quindi 16. 16 non prende. Grazie, Kat, mi vuoi far prendere. Guarda Bracco come aiuta. E abbiamo il secondo attacco. Contanti alla consegna. È un 19. 29. Sì. Non metta. 10. 10. Ovvero uno slot di secondo livello per dargli 3 di 6, 3 di 8 di danno. Vediamo. Sempre al ferito state attaccando, giusto? Beh, quanti impegni c'ha sto carta? Eravamo arrivati da un riposo lungo. Devo farvi trovare un terzo mostro? No. Uno che mangia carne di uomo. Non lo so. 17, 22, 7. Sono un sacco di ira. 29. 29 danni. Tondi, tondi. D'accordo. Questo era Quaker, sta Eric. Non è morto? No. Meno lui. Vai. Vendicare la palla. È un 6, è un 9. Ah, come prima allora. Prendi? 17? Sì. 2, 3, 4, questo. Ah, però. 4, 9, 12, non vedo questo di qua. Cos'è? Un 2. Questo qui, 2, 6, quindi 6, 9, 14 più 5, 19. 19 danni. Allora. Ah, sì. Questo era Eric. Va bene, molto stanco, ma questo non lo scoraggia, la fame è d'altra parte è tutto. Reazione di mezzo, si becca. Dai, medico. Allora, purtroppo non becca. L'altro però critta. Esatto. Capitano. E se critta questo. Vabbè, è di mezz'ora di mezza, quindi un attacco normale, no. Ma sempre. Ah sì, vero. Va bene. Io posso li prenderei tutti e mi tengo la quelli di mezzi? La dimezzazione, sì. Per dopo. Ah, ma è dopo il turno dopo, lo posso usare. È la reazione che converto. Dopo c'è il turno dopo, sono gli ultimi loro. No, io sono prima di loro, quindi sì. Allora, sono esattamente 40 danni, quindi ne prendi 20. Sì. Cioè, ha fatto, prima ha fatto 41. Sono 4 di 12. E prima ho tirato tipo 11, 9, 8 e 10, tipo una roba del genere. No, però avevo tirato molto bene. Non ho parole. 4 di 12. Vabbè, una volta o 6. Ma io la cosa posso... bella dei di 12 è che potenzialmente puoi fare molto alto se tiri bene. Come tipo prima, una volta L'avevo pescato bene, catta col gigante, e ho fatto 35 danni. Non sempre ti danno queste soddisfazioni. Soprattutto le spade che trovi nuove, che adesso butterò via. Cioè, non funziona. Sta a Arian. Non funziona. Ah, uso... Consegnerà il tuo ordine alle 22:20. Userò una cura su Erdi. Una cura potente. Ok. Grazie. Aspetta che devo vedere esattamente quanto danno devo tirare. Allora sono un di 8, primo livello, un primo di 8, secondo, terzo, quarto, un altro di 8. Altro di 8. Scusa Giulio. Uno schifo. Ma come per Olimpico? 6, 12, 17. Ma basta che ho più di 20. Su quello ferito, giusto? No, è la cura. Su quello ferito. Quello sì, non mi avevi detto neanche di come colpire, effettivamente. Purtroppo non è il mio psion, che non importava che dichiarasse come colpire. Niente, mi muore. E quindi è curato. Sì. Poi andiamo a vedere Infinity War. Tanto fa il tuo turno. Non so, ne parlava ieri anche l'altra, però che secondo me è un po'. Guarda. E anche quella dopo neanche. Cerco di dare colpo di grazia a quello ferito. Primo attacco aiutato dal mio bracco. 16 più 3. 26. No, 19. Mi fa 26. Non è vero che è così. Va bene. Provo ad usare un incantesimo di primo livello per fare più danno. 14, 17 e 7, 24. Non è ancora in piedi? Hai detto 24, sì. 24 lo ammazzi. Boh, quindi posso fare il secondo. Certo. 14, no, 17. Come? 17 prendi. 7. Faccio un normalissimo nodo che fa 8, però 8 e 7. 15 danni al nuovo. Sì. Ok, Eric. Va a dire 17 più 8, 25. Sì. Oddio, che schifo. 9, 10, 11, 14, 19. 19 danni? Yeah. Ok. No, sta l'ultimo rimasto. Reazione di mezzo. Non ti prende. Peccato. E vabbè, sta Arian. Sì, hai il potenziale, ma è anche un solo attacco stavolta, quindi... 21. Sì, ma non ti ho mai preso con tutte e due, infatti, che delusione. 21 prende, certo. E poi sono 20... 10. Non ti ho mai preso con tutte e due. Vedi, sono questa parte. Vediamo se l'accoppiamo. Dovevo barare, parte. Volevi tirarlo giù? Stavolta 11... no. Infatti, stavolta pensavo che una volta almeno ti portassi. 14 danni. Solito ti portavo. 14 danni, sta a Quaker. Fido, cerchiamo anche questo. Cerchiamo anche questo. C'è un 3 e un 8. Un 13 questo. Vabbè. 23. Diciamo così. La scatola l'hai messa tu dopo tutto. 8. Altri 15 danni. Altri 15 danni. Secondo attacco. 1. Quindi è 36. Stavolta non becchi. 1. Cosa vuoi? A fare di poi mi attacco. Cosa vuoi? Ma diamo una spadata. Ci sta di tirare un bel tiro percentuale. Ci diamo un tiro percentuale. Cazzo. 79. Va bene, dai, non c'è. Vado io? No, tu non eri l'ultimo, tu? Sì, sta a te. Ecco il ventello. Non c'è sempre. Sempre, cioè, sempre altissimo. Io non ho mai fatto crit ancora. Sì, ho capito, ma tirate tutti dei granzi, ti tirano come dei bovari. Qui adesso tiro alto. Ah, lì. Oh, mamma mia. 12, 24, 29. 29. Oh, vediamo se mi dà una gioia. Reazione di mezzo. Mi dà una gioia. Non mi dà la gioia. Non ha preso neanche? No. Tirato bassissimo. Oh, classe armatura di cacchio. Non mi prende. Fuoco. Vai. 15. E 21. Sì, ma voi tirate come dei pazzi. Ho fatto trovare altri mostri. No, cosa? Devo farvi trovare 4 come volevo fare. 4 non li leggevo. 17, 19, 20. 20 danni. Basta. Con cosa, martello? Ha rotto il cazzo. Muore. Bene. Prendo da loro lo scalpo con il loro pelo. Sì. Da gigante, boh, avrà una collana. Sì, cos'è il gigante? Solo lascia. Allora, il gigante. Facciamo che il gigante c'ha una borsa fatta in pelle umana. Chissà cosa c'è dentro, apriamo. Eric, guarda cosa c'è nella borsa del gigante. Adesso vi potrei sparare un po' di pietre preziose. Passami il manuale. Master. Basta, Pietro Prezzone, perché che ce ne facciamo? Fammi capire cosa fa sta spada, sennò la butto via. Devi crittare. Fanculo. Non ce la farò mai. Vabbè, non è meno forte delle altre, però te hai 26 robe magiche. Che cazzo? C'ha gli occhiali. Altre robe. I guanti che non posso mai usare. I guanti. E basta. E la madò. Insomma, tre oggetti magici. No, capito, uno l'ho comprato. Tre oggetti magici. Lui ne ha due, tu ne. Perché sono range d'attack. Hanno effetto sui range d'attack che sono. Vabbè, sul gigante che lanciava pietre. Non posso. Vabbè. No, quello sì. Infatti io avevo in mente quelli in realtà, quando ti ho detto che la potevi prendere. Sarebbe stato un po' paradossale. Sì, ma. Sarebbe stato divertente vedere l'Huffling. No, beh, prenderla la posso prendere solo se annullo il danno. Altrimenti è una sorta di riduzione danno. Vabbè. Allora. Ma facciamo che, senza stare a impazzire, vi faccio trovare, vi faccio trovare 10 pietre di luna. E un paio di pepite d'oro particolarmente grosse. Potreste provare una prova di valutare riguardo. Quello del gigante. Allora l'oro c'è però. Qua no. Mi fa un tiro. Il ladro. Ma quello che vuole. Ti ricordi che dicevano vengono qua a cercare l'oro, lo ma le miniere sono finite. Boh, direi che ci può, anche se ho poco, direi che ci può stare un survival comunque qua. Direi esperienza passata. Che è sull'intelligenza. Beh, comunque uguale. 12. 7. Quakecat, vuoi farlo anche tu? Che di bottini ne sa, infatti. Queste pepite, presumibilmente, valgono Tra tu diresti 700 monete d'oro l'una. Grazie. Peccato che sia meglio a te. E dopodiché c'è l'ascia enorme che prende l'Halfling. Sì, c'è una collana fatta di teschi di piccoli animali. Quella la prendo io. E denti vari. E un collanone enorme. Lo metto sullo scudo. Ok. Mi direi di prendere anche l'ascia. L'ascia è enorme. Può servire al villaggio per usarla, non so, come tagliere. Vabbè, anche solo per fonderla. Può essere materiale. Recuperata sicuramente. È una normale ascia, cioè metallo e legno. Tagli il manico e prendi il metallo. Sì, esatto. Già che è affilata, tipo così su un tavolo. Decideranno al villaggio. E quando devi tagliare le cose, cioè, le passi sopra così. Non è comodo da mangiare. Sì, ma anche per fare quel pastino. Tra l'altro è un'ascia, cioè non sarà affilatissimo. Puoi affilare tu con la pituzza. Bel terrasco, e potrebbe essere il momento giusto per farlo trovare. Una presa forte. Sì, non è che dobbiamo sterminare però la fauna selvatica. Beh, perché no? Boh, siete lì. Greenpeace che cosa? No, va bene, dai, basta. Ma no, c'è la foresta dei troll ad un tiro di scappo. Cioè, tu, ma non che c'hai lato, 26 punti. Hai 26 punti feriti. Ma adesso non hai detto che attacchino me di nuovo. Prima o poi qualcosa arriverà. Sì, questo è il lago delle civette, perché non incontriamo mai delle civette. E io non siete ancora arrivati. Boh, solo 4 incantini. Va bene, proseguiamo nella... Direi che ci riposiamo un'oretta prima. No, più che altro è arrivato il tipo con... Sì, la guerra scavana, cioè, mentre noi facevamo i fenomeni. Ma adesso, dopo un po', arrivano. Io intanto mi rimetto a Lezzar. Per aiutarmi. Grazie. Però... Grazie. Capito, Lezzar, sì. Il vostro aiuto è stato molto apprezzato. Siete dei pazzi a rimanere a combattere con quel bestione. Però vedo che siete dei guerrieri formidabili se l'avete abbattuta. Mi ricordo ancora qualche trucchetto della mia gioventù. Devi toglierti gli occhiali. Queste altre bestie cosa sono? Oh mio Dio. Dei bullet. Qualcosa deve averle attirati. Sì. Lui. Probabilmente la carne dell'Halfling. Queste terre sono molto pericolose. Per gli altri. Soprattutto per gli altri. Ok. Purtroppo, a causa dei bisonti che stanno scappando, la carovana si è un po' dispersa. Aiutatemi. Però ci siamo più o meno riuniti. Adesso li andiamo a raggiungere. Intanto aiutatemi col carretto. Dobbiamo sistemarlo. Io no. Ah, questa è una delle cose. Un altro dei topos delle mie avventure. Carretto. Fare e sistemare carretti. Una delle cose più difficili. Ce l'hai mending. No, però no. Sciuparlo così. No, è un cambio. Il problema è che ripara singole rotture. Un carretto che esplode a causa di una roccia. Stai lì un'oretta e vai. Io leggo, non vi aiuto, mi dispiace. Oddio, non possiamo più pronti. Accomodarlo alla mo' di slitta e trascinarlo fino al... Quanto è rotto sto carretto? Ci vuole un po' di tempo per ripararlo. Cosa sta facendo? Soldi. No, c'è un cutter. Paghi alla consegna, vero? Sì. Piccoletto, quindi, non star lì in disparte. Vieni a aiutare. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Con quelle piccole mani potresti essere utile. Mi pare che voi quando abbiamo combattuto non ci foste, quindi diciamo che ci diamo il cambio. Visto che le devi dare a lui, me ne libero io. Su, avanti, avrai tutto il tempo di leggere nel percorso. No. Forza, vieni qua, aiutami. No, bisogna riparare qui. In questo momento ho altre cose da fare. No, non hai altre cose da fare, hai da fare questo. Va bene, che dici? Allora, adesso mi fate una bella prova di survival. Sono un vecchio. È una prova di gruppo. Quindi la può fare uno, gli altri lo aiutano con vantaggio. Io zero. Cos'è survival? Wisdom. Basate tutti su wisdom voi, cioè dovreste. No. Vabbè dai. La tiro io. Va, tira con vantaggio. Con vantaggio. Anzi, e tra l'altro non siamo più. Vantaggio. Vantaggio. Sì, vi aiutate e la devi potete passare come voi. No, c'è un 4 e un 1. Perfetto, è un 12. È un 12. Va bene. Il carretto viene riparato. A triciclo. No. Ci mette. Lo dici comunque nel fucking. Il carretto viene riparato, ci mettete un po', però probabilmente perché non tutti stanno dando proprio il massimo nell'aiutare. Io sto leggendo. Però diciamo che comunque in un'ora, un paio d'ore, riuscite a ripararlo. Ovviamente queste sono un paio d'ore. Lo so. È stress. Se qualcuno forse avesse dato una mano in modo migliore. Va bene, quindi ti segni non 10 ma 8 ore. Ah, ok, chiudiamo la giornata così. Sì. E ripartiamo, va bene. Come sei messo? 38 su 48 e manca l'ultimo giorno. Quindi domani devo fare il full immersion. Beh, era normale, cioè 48 ore in 6 giorni. Sono tante. E comunque domani hai detto ci mettevamo 2 giorni e mezzo. Siamo stati comunque quasi mezza giornata fermi qua. Domani sarà tutta un'altra giornata di viaggio. Ancora. Beh, arriverete un po' prima. Sera. Allora, il giorno dopo arrivate effettivamente al. L'incontro della piccola e della grande lepre, che sono questi due fiumi che nascono, che sono fiumi tipo torrenti fondamentalmente, che nascono dalle montagne dell'Orso. Lì arrivate e notate subito che praticamente ci sono una serie di carri e accampamenti. Ci sono come due tipi di accampamenti. Uno è chiaramente è il villaggio. Ah, quindi siamo è già sera, sarebbe? Prima di sera arrivate. Okay. Però sì, prima di sera. Uno è quello che grazie. Probabilmente è il villaggio. E vi ricorda più o meno similmente quello che avevate visto sulle rive del mare degli inganni quando vi aveva sguidato Giulio per salvare i popolani dall'idra. E però è messo meglio, è più grande, però in linea di massima parliamo di tende fatte con le pelli, diciamo, eccetera eccetera. E un'altra parte invece è il vostro di accampamento, è un po' staccato ma è sempre comunque sulle rive del fiume ed è lì. Praticamente vi rendete conto che le due parti rimangono sostanzialmente separate, però c'è un certo qual aiutarsi tra le due. Vi viene detto di interagire comunque il meno possibile con questi selvaggi, perché sono gente un po' primitiva. Ah, il villaggio è di autoctoni. Sì, il villaggio di autoctoni. Gli viene appunto detto di interagire il meno possibile con loro. Io sono dopo. Perché è gente strana, con usanze un po' così, oltre al fatto che parlano una lingua che è come se fosse una vecchia versione primitiva della vostra. Mm-hmm. Questo già l'avevate notato. Molto, molto gutturale. Vuoi mettere la partita dietro? Possiamo anche farlo. Reale Bayern. Dovrebbe essere carino. Allora, comunque facciamo così, mentre spieghi, mentre fai l'attimo, intanto ti dico, visto che è l'ultimo giorno, se siamo arrivati prima di sera e ci fanno sistemare nell'accampamento, prima di andare a cena, per gli orari che mancano così a finire queste ore, io rimango in tenda e esco quando ho finito. Se ci sistemiamo così non dobbiamo fare altre cose prima, con capi villaggio o cazzate varie, insomma. Tu vuoi stare in disparte per studiare qui la roba? Se ci fanno sistemare, non esco per cena finché non ho finito. Okay. Cioè, faccio la tirata unica. Va bene, quindi ti... Poi mi dici... Se vuoi ti puoi anche tipo nascondere, se preferisci. Ah, se ci lasciano andare a sistemare, no. Se non ci lasciano, diciamo, andare, che mi... No, se voi siete lasciati moderatamente liberi, però al tempo stesso... Può essere che magari ci sono dei lavori da fare, allora se uno ti vede e dice tu che leggi, vieni a darmi una mano. Per cui se tu mi vuoi dire che invece ti vuoi appartare in una parte del fiume, eccetera, per sfuggire a questo tipo di rischi. Se ci sono, sì. Se ci sono questi tipi di rischi, sì. Come su che canale Adam. Sì, se riesco allora mi defilo con sì, cioè, direi esco in stealth. Vabbè, se vuoi defilare e metterti a leggerti, va bene. Ok, vai. E invece voi altri, Giulio vuole andare a parlare con i popolani. Va bene. E Quakert invece? Io mi guardo intorno e dai una mano a seconda di quello che ti viene. Tengo sempre un occhio su Arian e i suoi tentativi di public relations. Ah, quindi lo segui? Lo tengo d'occhio, non lo seguo. Ok. Di cosa hai paura? Niente. Va bene. Dimmi come vuoi procedere. Mi avvicino al villaggio, adesso aspetto magari che qualcuno venga e inizio a girare per il villaggio. Sì, vedi molti bambini che ti guardano molto incuriositi dal tuo... Invece gli uomini e le donne ti guardano in modo molto più... oscuro, insomma, capiscono che fai parte del gruppo degli altri e cioè non hanno nulla contro di te, però ti guardano un po' con sospetto. Sicuramente ti rendi conto che c'è una tenda più grande qui, che è probabilmente o è la tenda del capovillaggio, comunque è la tenda comune dove ci si ritrova. È un villaggio comunque sicuramente più grande rispetto a quello che avevate visto, che è particolarmente piccolo. Questo è più grande e soprattutto è chiaramente meglio organizzato, tra le due sponde del fiume, comunque in un certo senso riparato anche dagli alberi. Quanti? Più o meno ci vivranno 50 persone, 50-60 persone. Beh, piccolo, sì, certo. Mi dirigo verso la tenda più grande con calma. anche 70 magari, però sì, da quelli che vedi tu. Ah, un bel villaggio allora. Anche grande. Beh, nip. Beh, considerando che non si doveva vivere nessuno in sta zona. Sì, beh, di certo diciamo che non ci sono tantissimi, questo probabilmente è il villaggio più grande, insomma. Da quello che sapete voi esistono due villaggi veramente riconosciuti. Uno è questo e l'altro è all'altezza delle montagne. E poi probabilmente ci saranno dei villaggi più piccoli, però non diciamo mappati, insomma. Ok. Mi dirigo la tenda principale con calma. Non so se la fanno vedere però su. Non lo so. Basta, no. Se è troppo Non bisogna capire. Non è che c'è bisogno. Non è che sì, ho bisogno il di vedere. 4 è canale 5, ovviamente. Steso. Ah, però ho preso la palla. Va bene. Allora, scusami, non ho capito. Vado tranquillamente, mi dirigo verso la tenda più grande. No, più grande. Ok. Ti si para contro un uomo armato che ti chiede che cosa vuoi. Vorrei conferire col capo di lancio. E tu chi saresti? Io sono un uomo degli dei. Un uomo vile. Un uomo degli dei. Ah, ho capito, un uomo vile. Vile. Quali dei? Gangleri il grande, dio della tempesta. Non conosco questo dio, ma se è un dio della tempesta sicuramente va temuto. Quindi è un dio oscuro. Quando qui passano le tempeste sono tempi oscuri per noi. Se la tempesta si scatena è perché il dio è arrabbiato. Punto. Quindi bisogna temerlo. Oppure bisogna fare in modo che non che sia non arrabbiato. E quindi cosa vorresti. Perché vorresti disturbare il capovillaggio? No, vorrei solo parlare. Beh, adesso sta riposando, quindi al massimo torna dopo. Ah, ok. Vedi però che intanto si apre la tenda ed esce fuori un uomo potente che dice: no, beh, non ti preoccupare, Kurgak. Come scusa? Kurgak. parlerò io con l'uomo. No, l'uomo di villaggio dei coloni. Arian è il mio nome. Arian, sì. Voi usate molte vocali. Entra pure. L'ospitalità ti verrà garantita in questo luogo. Grazie. Entra. Giuro, così gentile. Ti viene porto un, diciamo, una bevanda che è una specie di tè. Bevi. Un assaggio. È buono. Non sa buono. Te lo dice qui, è buono. No, okay. Non è cattivo. Sì. Con così posso fare tipo un test per sentire? Un test? È fatto con delle erbe probabilmente locali. Cosa c'è di particolare? È un infuso. Sì, no, se magari. È un infuso di erbe di campo, fondamentalmente. Può essere che ci sia un po' di. Sì, no, ok. Di tarasca, queste cose qui. Tarasca. Terraso. No. E quindi tu. E quindi tu saresti un uomo. Un uomo degli dei, hai detto. Sì, io sono un servitore del dio della tempesta. È un dio antico, molto antico. Noi qua abbiamo, è importante per noi venerare gli elementi, la natura. Anche il vento è un dio potente, ma a volte un po' capriccioso. Diciamo che sicuramente noi, stando più all'interno, non sempre ci viene a cercare. Volevo sapere più che altro come è nata questa vostra collaborazione. Beh, inizialmente ai tempi di mio nonno non c'erano buoni rapporti con noi coloni. Adesso va un po' meglio perché loro hanno capito che hanno bisogno di noi e quindi ci danno viveri e altri elementi, altre merci che ci possono essere utili per l'inverno. Noi li aiutiamo con la foresta, come scalo e commerciamo con loro, insomma. Un tempo invece combattevamo, ma adesso non più, per fortuna, per ora almeno. Però non c'è tanta amicizia tra noi e loro. Voi siete troppo raffinati con i vostri modi, le vostre strane usanze. Questa è una terra per una vita semplice, devota agli dèi, mentre voi siete molto più Voi, così. comunque loro. Beh, se venite dal sud siete tutti comunque della Tutti stessa pasta. sudati. Ma una volta anche il sud era più selvaggio, più simile a questi territori. Non ho mai visto, non sono mai stato più sud di così. O meglio, sì, sono stato all'altezza, sono stato più giù, all'altezza di Kafkern e cose del genere, ma non di quella che ora voi chiamate Kafkern. Beh, la civiltà da una parte è una piaga, dall'altra sembra essere utile. A quanti, i vostri popoli hanno avuto origini da queste zone, ma non c'è stato tanto grande rispetto quando siete arrivati qua, nei nostri confronti. Eppure si dice che dovremmo essere fratelli di sangue. Dovremmo. E quindi. Spesso chi ha il potere cieco e non capisce Il che sordo! potrebbe perderlo se non fa, se non mostra interesse verso. Qua c'è un solo grande potere al nord che va rispettato, il grande freddo. Con lui non puoi scherzare. Oh, adesso è molto caldo in questi giorni, ma quando scenderà la grande notte, la lunga notte, la media notte, la mezzanotte, no, la grande Ah, beh, notte, l'inverno è caduto. e bisognerà capirai cosa vuol dire veramente vivere da queste parti o sopravvivere da Suono una capanna. Salve, secondo piano. queste parti. Hai fatto prima che ho portato il kebab, piatto tipico degli abitanti del nord. Certo. Se li prendo, se no te le do anche un po' meglio. Sono 5, ne hai lasciato uno sul coso. Sì, ma questi sono gli 250. Se li devi tenere tu, te li do cambiati bene. Se li dai a lui, va bene quelli. Pausa tecnica. E così. Più che altro sono le azioni leggendarie, la resistenza leggendaria, che spostano, e anche le azioni Il drago dell'attacco. rosso 24 è sfida. Non so se lo sai che quelli lì hanno non solo le loro azioni, ma anche le azioni della tana in cui stanno. No, Eppure il luogo il tipo luogo loro, sacro cioè, sarebbe. il loro dungeon, anche lui ha un suo round in cui succedono cose. Nuova coca, però finiamo l'altra. Ok. Ah. Allora. Bene, bene. Porca. No, se è come l'altra volta no. Faccio panino e non sporco nulla. Belli, ma questo qui è della... sono belli, eh? È della 5? Sì. Giochiamo la 5. No, no, no, no, no, vabbè. Sarebbe preoccupato. Questo mostro visto... della 3.5 è quello che serve. Le illustrazioni non l'ho visto. Sono belli, sì. Belli. Sì, sono molto belli. Tieni, scatta, così, forchetta, forchetta, forchetta, forchetta, così. Quindi si vedranno mentre ci esibiamo adesso. Eh sì, ma qualcuno di voi ha preso qualcosa di... comunque... C'è... Ah, ci hanno portato il dessert. 10 Ah, lo yogurt. Sì. Per le 10:30 andremo anche a finire, come dicevamo. Va bene, sì sì. Non so se si è aiutato in tanto. Si è aiutato in tanto. Questi sono i vostri pani. Questi sono i nostri pani in realtà. Allora. Oh, l'idra. Allora, quello è il King. C'è il King, poi c'è il King. Dai, il King. Credo che sei tu. Non è ancora quello che ho preso. Sì. Allora lì c'è che cos'è quel K? Forse. Vediamo cosa scritto. Che salse. Io l'ho preso col ketchup. Allora sarà questo ketchup. Vabbè, poi comunque lo apriamo e vediamo, non è che. Niente, uno è il piccante, in teoria l'altro non si sono ricordati. Apri. Cos'è? Ti do il vostro pane. Dov'è la borsa? La borsa. Metto questo qua dentro la borsa della consegna, così non sbrodolo. Qui. Ah, ma è cambiato. Il tuo c'ha anche il riso, è diverso? Hai preso una roba diversa, mi sa. No, per il pezzo che infatti dov'è? Forse è in quello là, e questo è il tuo. E questo è il tuo. Ah sì. Aprilo. Ma il vostro questo non è il mio riso. Infatti non so. Non so il pezzo. Secondo me tu hai preso il King, hai preso, non hai preso il. Hai preso uno, hai preso quello da 6? No, era da 5. Ero abbastanza sicuro. Poi riguardare l'ordine. Beh, tu c'hai il ma te l'ho detto che tanto portano sempre cose a caso, non è, un, non è una cosa. Ketchup ce l'ho comunque. No, era per se, se ah, ma vuoi un piatto allora? No, no, io no. No, stai facendo una roba. Fidati, però... anche l'altra volta me l'hai detto e non ho sporcato nulla, stai tranquillo. Se, se mai sporcherò, pulirò e la prossima volta mi dai il piatto. Cavolo. Aspetta che. Controlliamo. Tanto ormai. Vabbè, intanto ti do un pane. Grazie. No, l'altra cosa volevo. Gli altri no? Però ho sporcato tutto. Non mi dato il piccante. No, volevi il ketchup, hai detto. No, non voglio il ketchup. Ma tu hai preso col ketchup. Per distinguere da suo che arriva lo yogurt. Ma. Eh no, non so, ti va bene avere il riso anche? Mm. Ah, perché no, non c'è no, il pane? No, no, il pane c'è. Allora. Lui è una roba in più, ha il riso. beato lui, c'è una roba in più. No, io sono sicuro che voi abbiate quello che avete ordinato. Io stavolta sì. Che non sto fregando. Sì, poi non so se uno di voi c'ha il piccante, potrebbe essere il mio, ma vedo che mi sa che non hanno messo e basta. Cosa che capita. Allora, fammi vedere. Allora, vediamo un po'. Qui c'era Maxi Kebab e un Doner King menu qualcuno ha preso. 7,50. No. Questo. Allora, io ho fatto i nostri due e tu hai preso quello da 7,50. Pensavo di aver preso io uno di quello. Ok. Non so che cosa sia il Doner King menu di alla questa. Sì, però... King menu sono... Ah, c'hai anche quella cochina lì, ecco cosa da dove veniva. Se vuoi puoi averla. No, se no la teniamo lì. Se vuoi puoi averla. No, perché l'hai pagata. Cioè, non l'hai ancora pagata, ma... Se vuoi puoi averla. Va bene, intanto buon appetito. Va bene, per quanto riguarda invece... Il gioco. Cos'era? Ma non si sta tutto stavolta. O il pane è più piccolo o la roba è di più. Ma forse stai facendo un buon casino, Vez, lo so che ti incute timore la mia scelta, ma stai tranquillo. Non posso chiederti perché non l'hai preso. Perché nel panino mi mettono quelle cazzo di salse per forza dentro. E io non le voglio. Non ti permettono di dire che non le vuoi. Una la devi mettere. Questo è un paese libero. Ho messo anche troppa verdura, direi che basta. Un po' buono se volete assaggiarlo. Fabio di solito prendeva una cosa simile, mi pare. Comunque, Giulio, sì, lui parla con te. Condivide con te qualche storia. Nel luogo. E ti chiede da dove, la terra da dove vieni, che terra è. Non è una terra. Però. Mi stanno giocando. Si chiede anche perché. Mi racconto che vengo dalle montagne in mezzo al continente che sta a sud. Una terra remota. Molto. È la prima volta che però ti vedo, quindi deduco che siete nuovi coloni, siete tra i nuovi coloni. Sì, no. Ho iniziato un pellegrinaggio che mi ha portato qua e che forse mi porterà ancora più a nord. Che gol che ha fatto! Porca puttana! Più a nord di qua? Che cosa intendi? Oltre le montagne dell'orso? Sì, no. Guarda. No, puoi vederlo lì. Cosa intendi più a nord? Ma che senso non intendo? Beh, si è mosso stranissimo la mossa. Mi ha lasciato la porta aperta. Beh, non ha senso. Cioè, se sta fermo gli arriva addosso. Ma no, si già... con la Juve che però. Beh sì, ma lui non è un gran portiere. E quindi ti chiedi cosa intendi per più a nord, cioè oltre. Non conosco bene queste terre, quindi non so esattamente, non ho riferimenti. Forse se sei un uomo degli dèi, stai cercando le rocce degli dèi. Cosa sono? Ma quello è un luogo sperduto, remoto. Sono poche. Sei lì che è destino che io vada. Sono un po' rumore un po' folletto. Ci sono i tovaglioli. Ah, comunque. Ma non solo per la bocca. Non so. Le pietre, le rocce degli dèi. Cavolo, mi dispiace, non hai denti quindi? Non ho capito. Che il pane non hai denti. Eh sì, hai detto, bravo, affogati col cibo. E sono un luogo remoto, pochi sono quelli che partono per raggiungerlo, ancora meno quelli che tornano, e pochissimi sono quelli che fanno ritorno. Smetti di rubare le frasi fatte e fai il master te. No, me ne immagino, tipo, io no, niente. Fate la vostra manovra, ma Las, magari dici dove siamo. Siamo. No, fate la manovra. Poi io faccio la mia. E poi. È un percorso molto complicato. O passi le. Delle rocce di idee, io sapevo qualcosa. No. Non hai mai sentito parlare. In realtà. Sono due le strade. Dimmi, sono curioso di. Una. Come si arriva a queste rocce degli dei? Sono due strade, una più pericolosa dell'altra. Una ti porta oltre le montagne dell'orso, insuperabili per la maggior parte delle persone. No, gli alti pinnacoli di ghiaccio forse sono il minore degli ostacoli. Visto le creature che affollano le montagne. Oppure puoi fare il giro e poi dopo le montagne, una desolazione di ghiaccio sterminata. L'alternativa è passare nel valico tra le montagne, ma questo significa tra le montagne dell'inverno e le montagne dell'orso, ma a quel punto dovresti affrontare le bocche del drago e poi andare sempre più a nord verso i ghiacci immortali. Le bocche del drago, si dice che sotto il ghiaccio, sotto la neve e il ghiaccio, un drago enorme e antichissimo riposi, e quando i passanti, gli avventurieri che sono così pazzi da avventurarsi in quelle zone gli passano sulla schiena e turbino il suo sonno e vengano inceneriti da possenti patroia. No, da possenti vapori provenienti dalla terra. Entrambe le vie sono molto difficili da percorrere, anche perché è un viaggio lungo e quindi difficile da fare in un'unica stagione. Però c'è il drago, vogliamo andare a vedere, dai. Quale sarebbe il momento migliore per partire, secondo te? Adesso. Adesso. Ma onestamente te lo sconsiglio. Cazzo, sei educato? Siamo in diretta. Mio padre mi parlava di questo avventuriero, delle tue terre, che voleva esplorare questi luoghi. Anzi, non mio padre, mio nonno, ora che ricordo. Erano... Non so se sia mai giunto là, ma ne aveva sentito parlare, voleva vederle. Ma non so che ce n'abbia fatto, non l'ho più rivisto. Cioè, non è stato più rivisto io. Sì, sono comunque storie affascinanti. Si dice che lì dimori il potere degli dèi, sia la porta che... tra il nostro e il loro regno. E allora potrebbe essere un luogo che vale la pena provare a raggiungere. Sì, ma come ti ho detto, se i dei l'hanno messo lì è perché volevano evitare che i mortali potessero raggiungerlo. Beh, potrebbe anche essere un test per vedere che solo alcuni mortali possono riuscire in questa preimpresa, solo coloro che gli dei reputano degni. E tu pensi di essere degno, immagino? Non sarò io a decidere. Ma queste vecchie ossa non mi stendo. Vedo che porti con te un martello con le rune antiche. Sì, è stato un dono. Un dono di chi? Beh, direi di vostri conterranei che abitano più a sud, lungo le coste per arrivare a Tana dell'Orso. Sembra di antica fattura, potrebbe contenere un potere, un grande potere. Ma io non voglio responsabilità e buttare il martello, no. Sembra infatti che sia un artefatto che riserva più sorprese di quelle che si potrebbe pensare. Non ho ancora avuto modo di apprendere tutti i suoi segreti, ma non dubito che una volta che mi avrà svelati mi sarà molto utile. Quindi è la prima volta che fate questo viaggio, insomma, andate, diciamo, nella foresta? Sì. Ok. Ma abbiamo già visto che i pericoli non mancano. Abbiamo affrontato un gigante venendo qua. Stando al racconto di alcuni miei uomini, ci sono ormai sempre più orchi del nord verso le montagne. Dovete stare attenti, anche se per qualche motivo sembra che gli uomini del vecchio orso riescano sempre a farla franca. E cosa mi sai dire invece dei giganti? Popolano queste terre da tempo immemore. Di solito. Ma ci sono solo i giganti del freddo o altre razze mai viste abitare? O conosci, magari perché visto? Ci sono giganti più piccoli e giganti più grandi. Quelli più grandi vivono nei picchi più alti delle montagne, e quando uno di loro scende a valle, l'unica è scappare. Gli altri sono più comuni, e adesso che diciamo un buon periodo per cacciare, a volte vengono poi quando diventa un po' più caldo tendono a tornare su. Non gli piace tanto il caldo in realtà, ma questo è un buon periodo per loro per venire più a valle, si possono trovare. Quando si trova uno, l'importante è nascondersi. Non sono molto intelligenti. Non uccide. Non uccide. Beh, direi che solo un grande guerriero o un esercito di guerrieri potrebbe riuscire nell'impresa. O tre persone. In mezzo, due e mezzo. Tre eroi, forse. Eroe è una parola grossa. Basta che siamo benedetti dagli dei. Ho visto uno di quei cosi staccare la testa a un bisonte con una mano sola. La loro forza è incredibile. Oh. Beh, oggi uno di quei giganti è stato ucciso. Ieri, sì. Io e i miei compagni siamo riusciti ad abbatterlo. Magari. Faccio fatica a crederlo, onestamente. Non sempre le apparenze sono. Ingannano. Cosa? No. Dico no. Non sempre le apparenze rendono conto di tutto quello che una persona è in grado di fare. Io penso passerò un po' piano. La forchetta è mesata, vero? Sì. Ho già preso un po' di salsa. Di yogurt. Tanto ve lo metto qua, poi lasciatemi. È bucata la borsa o posso buttare? Ma buttacela. Sì. Stiamo attenti. Magari taglia più spicca. Facciamo che la mettiamo dopo quando andiamo via. No, mettila qua. No, vai. E poi lo metti lì dentro. Vai. Ci sei? Sorry. Metà è buttata del cibo che hai preso. E la salsa e basta. È quella che pesa. Non ho detto che non la volevo. Vabbè, comunque vado ancora avanti un po' così con massime. Ma cazzo. Ah, fammi un. Poi gli chiedo. Dimmi. E poi gli dico che in questi giorni in cui sarò qua, se hanno bisogno, qualcuno si ferisce, qualcuno è malato, che sono un guaritore discreto. Ok, allora mi fai un tiro. Per raggirare, perché non è vero che è bravo. Esatto, no, è un tiro di carisma, di persuasion compulsivo. Persuasion. Cos'è? Dessert. 19, merda, è il quinto 23. Che fai oggi. Va bene, è molto colpito dalla tua... Best buddy. Sente in te qualcosa di... Ha fatto il gol, Real. No, non l'ho visto. E sente in te qualcosa... Non finitelo, però lasciatemelo un po'. Tu l'asma vuoi? No, non ce la faccio più. Posto. Non l'hai visto. Non avevo fuori tutta. Bello anche questo il volo. Qua è Marcello? Sì. Comunque lui è molto colpito da te e ti chiede se vuoi fare visita. Praticamente c'è questo uno di loro che è stato attaccato da un lupo e sta molto male, sta per morire, probabilmente morirà, però se vuoi dare un occhio. Se puoi dare un occhio. Va bene. Niente, questo è stato ferito e sì, a breve, cioè la ferita non è stata curata sufficientemente per bene perché era molto profonda. Prima faccio un test di medicina. Vai. Due, tipo. 18. Mamma mia. Più 5, 8, 24. Ok. No, 26. Sì, sì, sai, cioè capisci che sì, probabilmente morirà a breve. Capisco anche se con cure tradizionali fatte no, è recuperabile o ci vuole per forza l'intervento. Ormai cioè, magari all'inizio sì, ma cioè potresti provare in realtà, però non è detto che funzioni. No, io impongo le mani e uso una cura. Vai. Non uso una di primo livello. Vabbè. Cioè, ne uso anche di più di una. Insomma, sì, sì, va bene, lo curi così, insomma. Insomma, dimmi quanti incantesimi devo usare. No. Anzi, no, guarda. Uso l'incantesimo di quarto. Ale. Ma lo fai lì davanti, chiedi di... Sì, no, davanti a loro. Ok. E faccio, tipo, lo tocco. Oh. Lo tocco sulla ferita. E poi mormoro qualcosa in draconico, tipo. In draconico? Sì, perché magari il gigante l'ha sentito e pensano male. E lo curo di... 6, 12, 13, 18, 23. Ok. Allora. E poi vedo come è messo, nel senso. Sì, sì, no, beh, curato. Allora. Mormorando. Gangleri, ti libera dal dolore. In draconico, però, quindi non capisco. Allora, che qualcuno non parla in draconico. Va bene, allora, lo curi completamente e le donne che stavano occupandosi di lui rimangono sconvolte, tipo cadono a terra gridando tipo no, è maledetto il demonio, ha dei poteri oscuri, molto oscuri, è in pericolo, siamo tutti in pericolo, la magia oscura è tra di noi. Questo è il potere degli dèi. E allora tipo il capo villaggio invece è molto colpito, tipo si inginocchia davanti al tizio guarito, lo abbraccia e poi abbraccia anche te, dice: non dovete temere, quest'uomo è stato benedetto dagli dei della tempesta, egli ha portato qui la sua conoscenza per aiutare il nostro villaggio. Quindi dobbiamo essergli grate. Grazie, amico. Prego. Cenerai con me se vorrai, che con noi nella grande sala. Volentieri. Vi chiedo solo una cosa. Un menù vegetariano. Ah no. No, fare una, un'offerta a Gangleri. Gangleri, non ho mai sentito questo nome. È un dio che sei. Questo dio sembra un dio potente. Ok, che cosa demanda il tuo dio? Un sacrificio umano? E si volta verso il tizio. No! Ah, non ha senso! Non è vero sacrificio umano? No, non lo so. Che sacrificio demanda questo dio? Ma... I sacrifici più graditi agli dei sono sempre quelli di sangue. Vedi. L'animale... Per una vita spezzata, per una vita riportata. L'animale che sarà... Ci vuole una vita. Dov'è suo figlio? Esatto. Uccidete i bambini! No. L'animale che servirete, magari, alla cena, uccidetelo nel nome di Gangleri. Certo. Posso ucciderlo io nel nome di Gangleri. Poi... Se vorrai effettuare il tuo rito davanti a noi, ne saremo tutti onorati. Ok. Perfetto. Immagino già lui coperto di sangue. Giulio è malvagio, Kumbaya. Sono bravissimo. Sto facendo una delle cose che non ho mai fatto. Tutte queste interazioni con i PNG. Va bene, Giulio, si fa amici i paesani. Cioè, di solito arrivavo. Tu leggi? Tu, Quaker, hai qualche cosa da fare in più? Una volta che parlo di Giulio con gli altri paesani. Quello è un torre della festa, se si tocca siete spacciati. No, una volta che noto che c'è un buon feeling e non rischiano di linciare il nostro compagno, sì. Mi metto al lavoro per allestire il campo. Non ho mai avuto nulla da ridire con nessuno. No, magari i selvaggi erano ostili, dato che ci hanno detto di non parlare con loro. Appena gli scatena una guerra, allestisco la nostra tenda e l'accampamento. Ok, uno dove deve lavorare, dato che dopo uno chiacchiera, quell'altro legge un libro. Prendo, tu cazzo ne vuoi ancora? No, a posto. Prendo un po' buono, ma è peso, eh? Io un attimo. Nascosto il terapeuta. Giulio, sì. Allora, praticamente questo è un po' un punto, come dicevo, di transito. Praticamente, siccome a quanto pare voi siete degli abili avventurieri e cacciatori, vi verrà chiesto di seguire forse è meglio se prendete una mappa, di seguire la Grande Lepre, che è quel fiume più sulla destra, e di cacciare nei boschi, diciamo, sulla sua destra, diciamo, o anche oltre l'intersezione, in quelle zone dovrete cacciare per un po' e poi tornare qui, ci si ritrova qui tra una decina di giorni. Anzi, è stato fatto una... praticamente ora procederete, c'è un altro accampamento all'intersezione dei due fiumi, solo nostro, praticamente. E da lì poi partirete appunto per queste battute di caccia. Vi verrà poi illustrata la zona, e dopodiché poi una volta risolta la cosa, ma vediamo un po' come procedere. Il fatto che Giulio fraternizzi molto con i locali non viene visto molto bene dalle truppe, diciamo, dai vari coloni, lo vedono un po' con sospetto. Male Giulio, male. Mi vengono a dire qualcosa. Allora. Tu invece fai la tua lettura. Finisco. E quindi hai finito? Ce l'hai fatta? Me lo devi dire tu. Mancavano 10. Le 10. 10 ed era l'ultimo giorno? Sì. Allora sì, ce la fai. Prendi i tuoi più 2 di intelligenza. Permanente. Permanente. E il libro? Cosa succede al libro? Il libro, praticamente una volta che hai terminato di leggerlo, sembra, cioè, come se le pagine, cioè il libro in sé rimane tale, però sembra molto più vecchio, come se tutto quello che tu hai letto con chiarezza finora fosse molto più sfocato. Quindi non lo posso dare ad altra gente, immagino. Beh, glielo puoi dare, ma pensi che farebbe fatica a leggere con la stessa facilità con cui hai letto tu. Strano però, perché sembrava così chiaro prima. Forse è un meno 2 all'intelligenza allora. No, cioè, no. Forse è proprio una proprietà magica, è quella di rendere chiare le idee, ma non può essere fatto per tutti, o almeno non in questo lasso di tempo, ma è come la sensazione che un giorno tornerà effettivamente a avere di nuovo questo potere. Ok. Hai la scheda dove si vedono i modificatori qua tu? Non mi ricordo quali sono quelli che utilizzo. Va bene. Allora. Sì, me lo tropasso. Noti anche tu che sembra un po' come deteriorato, sì. Tanto no, devo aspettare 100 anni, non ci vuole. prossimo turno mio. Cioè, spero tra 100 anni di avere. Quindi, queste qua ci vanno questi, vero? Con i modificatori? Ok. In quelli che hai il pallino. Sì, c'è da. No, dicevo in questi qua ci devo mettere questo qua. Il centro intelligenza o il più uno qua? No, ci devi mettere questo qua. Più uno. Ok. No, sbagliato. Il pallino metti qui. Cioè. Ok. È la stessa identica cosa. C'era dei più risolvere si vede le prove di vita. Qua un più uno. Un più uno. Un più quattro. Un più uno. Ok, va bene, quindi un attimo solo, voi se non avete altre cose da fare... No, adesso sono libero io. Sono libero? Posso riparare i carretti se volete. Potete... Ma loro ci hanno detto che dobbiamo partire, no? E andare a caccia, ci troviamo tra una settimana. Cioè tra 10 giorni. Sì, cioè voi partirete, arriverete all'interstizione del fiume dove c'è un accampamento con altri coloni. Lì verrete divisi in squadre che andrete a caccia. Okay. Questa è l'idea. E poi dopo farete base lì. Questo è il piano, insomma. Vedete che qua è un punto dove c'è commercio, comunque anche un minimo con i locali, e ci sono molti carri che provengono anche dal nord, alcuni portano pellicce, altre delle casse, robe varie, e che vengono poi portate a sud. In realtà sta digerendo. Sta digerendo? Un orso fuori dalla tenda. Quindi non può stare nella spazzatura. Allora. Va bene. Allora, raggiungete dopo. Date la mappa. Dopo tipo 3-4 giorni, 3 giorni più o meno, 3-4 giorni, raggiungete l'intersezione tra i due fiumi. Partite già il giorno seguente. Non succede nulla in questi 3-4 giorni. Non succede nulla in questi 3-4 giorni. Solo perché non l'avevi preparato. No, faccio andare un po' più avanti. Io continuo a... Teo, ovviamente tu quando... hai fatto il rito, c'è stato molto seguito nel villaggio e tutti il capovillaggio ti ha lasciato un medaglione di legno con una runa che è il simbolo del loro villaggio, è un simbolo di, diciamo, di pace del loro villaggio. Hai fatto talmente tanto bene il tuo roleplaying e... che l'halfling prende il... E niente, detto che quando tornerai qua sarai ospite gradito. Mm-hmm. E... il tizio che hai guarito ti è grato e ti dice che se vorrai, cioè la sua vita di fatto appartiene a te e potrai, ti seguirà se vorrai in battaglia, dove vorrai. La tua vita appartiene a Gangli, la tua vita. Servilo bene. Certo, farò come dici. Come il tuo nome, mio salvatore. Erian il grande. Esatto. Magnifico. Molto bene. Va bene. Uh-huh. E arrivate all'intersezione. Qui c'è un piccolo accampamento molto spartano. Tra i due fiumi. C'è un posto. Ci sono dei fiumi. Cioè sono dei torrenti, però sì. Cioè l'acqua c'è. Non c'è. No, un posto. È spartano. Spartano. Si spada. Ah. No, quella è un'altra cosa. E va bene, allora venite divisi in squadre, visto che voi siete così affiatati. Team Alpha! E con i vostri due compagneri, chi compagneros. Sono? Gli altri due non sono così affiatati. No? Non sono così affiatati, però sono comunque con voi nella speranza che prima o poi torno. Visto che Philip è sicuramente maggior conoscitore dei boschi, sarà lui a capo della vostra unità. Mm-hmm. E venite mandati a caccia. Ora mi fate delle prove di survival. Mi fate una bella prova, se volete, di gruppo di survival con vantaggio, perché vi aiuta. Chi la fa? Sono sempre io che ho più 5 in 22. Nei giorni in cui cacciate, fate un buon bottino, tutto sommato, di pelli. Vi è stato fatto vedere l'accampamento, varie cose, anche come eventualmente recuperare le pelli, la carne, cosa fare. Questo vabbè, è stato insegnato un po' anche prima. No, e comunque lo sapete. Lui. Sì, non spogliare le sì, cose. Sì, ma infatti era sì, sono di passino, cioè voi siete considerati comunque esperti e vi viene lasciata un po' più di libertà. Però... uno di questi giorni vi trovate, Filippo vi ha condotto su dei sentieri più a nord, vedete gli alberi, è una foresta molto, diciamo, come gli alberi sono molto vecchi. Fai un tiro, visto che quando dicevamo per la bella donna che nasceva nei boschi eccetera, facciamo anche un tiro per vedere se ne troviamo qualcosa. Sì, no, ma lui ne aveva raccolta un po'. Okay. Comunque quando la trova la raccoglie. Ok. Quindi ti può fare i tuoi infusi fondamentalmente. Scusa, sono interrotto. No, hai fatto. Bene, e però uno di questi giorni vi trovate in questo luogo, come dicevo, siete vicini alle montagne ormai, ogni tanto le intravedete, diciamo, sopra gli alberi, in qualche modo, anche se sono molto. Se sono molto fitti tra di loro. E vi trovate in un piccolo spiazzo un giorno, con tanti alberi però attorno a voi. E praticamente è un luogo dove vedete c'è questa pietra non regolare in mezzo a. Sopra a degli alberi e sotto un'altra praticamente sono due pietre, una sotto e una sopra appoggiata, però non regolari. È un posto, sembra con una certa qual mistica. Fatto sta che quando meno ve l'aspettate. Sì, io me l'aspettavo. Non te aspettare. Perché uno degli alberi che vi circonda, cioè avete sentito dei suoni strani prima, ma poi li avete attribuiti a dei allo stomaco di qualcuno di voi. Philip si è un po' insospettito, ha detto che andrà a controllare la zona, ha chiesto a Sion di controllare l'altra parte. Ah, ok. Quindi rimanete qua e cioè possiamo accampare qua, visto che c'è questo spiazzo. Voi intanto preparate l'accampamento. Mentre però state preparando l'accampamento. Mi piace questo modo di decidere cosa ci fanno fare gli altri. A un certo punto una voce dice: non potete profanare, una voce tipo gutturale dice: non potete profanare questo luogo è della natura. E vi prova a colpire. Ma che cos'è? Esatto, un albero. Ma se non potete essere colpiti. Allora. La tua classe armatura, catta, via. È sempre 19. In ogni situazione. No, non è vero. A volte cambia. Però a lui è svantaggio, perché c'è il vantaggio. Va bene. Allora, una volta non ti colpisce, ma l'altra sì. È un albero che si è inalberato. E adesso ti sta attaccando. E si fa 15 danni. Si fa. Contundenti normali. Allora. Quindi 3, 12. Aspetta un attimo. Ok, allora intanto recupero questa. Poi mi potete tirare le iniziative. Dove vogliamo noi, lo possiamo tirare. Fermi, però. Non vedo un cazzo. Cosa? Erin, quanto hai fatto? Io avevo fatto 8 meno 1, 7. 7, Quakert? 9 meno 1, 8. E Eric? Più 4. 22. Ok. Catta sonno. Sono neanche le 10. Ha dormito tipo. Allora. Allora, io ho fatto le iniziative, però non era finita, perché gli altri due alberi, questi però non parlano. Sono uguali al primo? No, sembrano diversi. in realtà, cioè questo sembra che abbia una specie di faccia e sia animato, mentre invece questi sono degli alberi e basta che si muovono. Uno prova a colpire Laz. Prima del turno, quindi? Sì. Ok. E ti fa 13 danni. Però mi sto chiedendo, non è chiaro, però direi che ci sta che abbia, tu ne abbia due. La tua cassa armatura 15 e ti becca anche col secondo e ti fa 16 danni. E l'altro va su Giulio, che ha classe armatura 18. Esatto, e viene beccato 16 danni. E l'altra non viene beccato però. Ora sta Eric. Allora, uno di questi sì, è una roba di questo tipo. Un alberone con una faccia, una specie di ente fondamentalmente, visto che li volevi. E gli altri invece sono due alberi normali, che però non così normali, visto che vi stanno prendendo a pallate. E attacco quello di Kat, visto che è ingaggiato con lui. E sì, anche, ah sì, vabbè. E l'altro quindi, solo su di me. E quindi... Tu hai, esatto, hai un albero su di te. Beh, siamo tutti insieme, devo disingaggiare per attaccare l'altro. Sì. Allora... Sì, disingaggio, va bene. E poi attacchi l'altra, va bene. Non vedo. 8. 16. 16. 16 prendi. Allora, 6, 12... 18, 23, 28. Stai attaccando con l'arma magica, giusto? Quello nuovo, non so se è magico. Con quello nuovo, ok. Quanto hai fatto? 28. Hai attaccato quello addosso? Cioè, io adesso ho solo disingaggiato e attaccato, quindi, giusto? Sì. Perfetto. Quindi mi rimane la bonus che convertirò eventualmente in reazione. Però no, la bonus è disingaggio. Esatto, ah, disingaggio, ok. Allora mi mancava il movimento, basta. Esatto. Ok. Allora, beh sì, il movimento l'hai usato per andare su quello di Katta, fondamentalmente. Okay. No, è per quello che chiedevo. Ok, ok. Allora, dopodiché sta a loro. Allora, quello di Katta tira con svantaggio su Katta. Non becca. Quello su Katta è l'albero end. Sì. Tua classe armatura è sempre 19. 19? Mm-hmm. Ok. Questo ti becca. E ti fa 22 danni. Quindi 19. Aug. A questo punto si avvicina, aspetta, l'altro albero. E dice, questo piccoletto come si, come si permette di andarsi? La sua carne deve essere buonissima. Dicono che... E gli fa 17 danni. Non so come si chiama quello. Cazzo, sì. E poi prova a ricolpirlo. E lo colpisce. Troppo male fanno per me questo. Questo sì che fa male. 22. Mi sa che sono praticamente giù. Sei io. Giù. L'altro continua a provare a pestare Giulio. Ma non lo becca col primo. Il secondo, classe armatura? 18. Non lo becca. Sta a Quaker. Vengo in soccorso posto del mio povero. Ah, sono lì di fianco. Sì. Era il suo stesso. Non è ancora giunta la tua ora. Rialzati. Fai un tiro anche di intelligenza intanto. Oltre alle ferite. 17? 16. Ok. Sono dei tre, è un Trent questo. Praticamente sono dei custodi di magici di luoghi, diciamo, legati alla natura. E quindi, cioè, se un ritengono che sia stato violato il loro luogo, è naturale che reagiscano. Siccome però sono fondamentalmente comunque in qualche modo degli alberi, ovviamente sono abbastanza vulnerabili al fuoco. Che ne sono di noi? Bene. Non li avete notati perché fondamentalmente è impossibile notarli se non si muove. Alberi. Ma sono reale vantaggio. Sì, amici che non avevano ancora visto la partita quando sentirono questo podcast. Io curo di 30 l'as. 30? Ehi, bella cura. E niente, poi mi metto su di lui per proteggere il suo corpo. Ma sono tutti 30 o solo uno? Quello che... Ha fatto 16 lui. Allora, gli altri, cioè uno è sicuramente un Trent, gli altri sono boh degli alberi animati. Fai un tiro anche tu, Giulio. Tu hai fatto 16, vero Carter? 15. Più o meno hai le stesse sensazioni, anche se probabilmente sono comunque la cosa che ha senso è che siano legati tra di loro questi. Però gli altri non hanno la faccia del Trent, non hanno parlato. Vai, state a Giulio. Ovviamente no, perché in quanto pane questa campagna mi interessa i miei compagni. Quindi forse dai, evoco la spada. E la spada, l'arma spirituale. E attacco sia con l'arma spirituale che con. Chi attacchi? Con quello su. Ma per attaccare quello su Katta devo disingaggiare. Tu sei ingaggiato con uno degli alberi. E quindi sì. Allora, evoco l'arma spirituale su. Oppure ti prendi un attacco. Evoco l'arma spirituale su. Su Trent. Sì. E la evoco. Però. Tipo potente normale. Quanto siamo? Ok, quindi scasto Spiritual Weapon. E con quella attacco il Trent. Vai. E 11 non credo. No. E invece... Un tizio che lui... faccio un Sacred Flame sul... Sempre sul Trent. Ok. Che fa una destrezza 16. Cosa andiamo di fuoco? Radiante. Non stanno dicendo il flame. Oh, okay. Mi sono dimenticato non una passa. Cosa. Il prossimo turno. 5 danni. Il cagnolino posso fargli aiutare l'as quando si rialzerà o troppo tardi? Beh, tanto è già ingaggiato con te fondamentalmente. Ah no. Ah, non me l'avevi detto. Okay. È rimasto lì, bracco. si beve. Vabbè, vedete, tutti i magici ormai ci stanno. Allora, direi che sta Eric. Mi sei alzo a terra, ok, sì. E continuo ad attaccare quello che attaccavo prima. Vai. Non so, no, vero? Ok. 23 preso. Allora, 10, 16, 18, 22, più 5, 27. Ok, sta a loro. Allora, vediamo se riusciamo a questa illusione a eliminarla. Non lo prende la prima, ma lo prende alla seconda. E ti fa 18 danni. 15. A questo punto l'albero vede sguarnito, cioè finalmente ce n'è uno di questi stronzi, sì. Quindi proviamo a prenderlo. Ma non lo prende. Ah, so Ucrit. E prova a prenderlo di nuovo. E il secondo lo prende. Gli fa 17 danni. Questo capo? Sì. Come fai con tutti questi danni? Sei giù? È giù? No, ah? 22. Classe armatura di Giulio? 18 preso. E sono... Allora, Giulio, 11 danni. Arriva il secondo. Preso. E sono... Questo un po' di più. 19 danni. Fanno un sacco male. Sta a Quaker. Io non posso curare. Devo curare anche me. Sono 17 pure io. Quindi cosa fa Quaker? Dalle mie conoscenze avevo dedotto che loro sono a protezione di un luogo sacro ed è anche quello che hanno detto. Quindi fai la pepì sul luogo sacro. Quindi in teoria se fuggiamo dal luogo sacro non dovrebbero inseguirci. Ma perché dovremmo fuggire? Ormai non farci ammazzare. Non dici che ci tirano giù? Cioè dopo il long rest roba varia non avete tutta la roba. Fanno 20 danni a botta. In 4 attacchi siamo al terra. Cioè sì, gli incantesimi io ho quasi tutti, ma ho 17 punti ferita. Da cadaveri. Dipende da quanta vita al 30. Sostanzialmente secondo me se buttiamo giù lui ce la facciamo. No? Ma adesso perché siamo tutti qua in close. Io ho fatto una 50, mi pare. Voi non so quanti ne avete fatti. Sono il curato per io qui, sì. Ho fatto solo l'arma per fare. Io la vedo abbastanza grigia. Cosa fai, Kat? Allora, tu sei stato curato. Trentino, ne ho sei il primo del turno. Sì. Adesso siamo io e Giulio. Giulio cura se stesso. Tu quanti ne hai? 22? Io ne ho 22. Si è ricaricato il mantello. Sì. Possiamo provarlo a rischiare un altro turno, dai. Dici di no. E questi fanno due attacchi a testa, giusto? Sono se ne va giù uno. Intendo quello. Se tu butti tutto su quello, lui attacca e attacco io il prossimo turno. In teoria il danno si potrebbe essere, se non abbiamo sfiga. Se non abbiamo sfiga. Allora. Proviamo a giocare il tutto per tutto. Quindi fa lo segretario. Uso il come si chiama il mio potere divino per darmi vantaggio di attacchi contro il Trent. Sì. E il cane anche fuori? Il cane ce l'ho. Sì, ma quello lo faccio dopo. Per la, esatto. Così dai vantaggio a te. Lui. Però comunque. No, tu hai già fatto, no. Ah, hai detto che ti curi però? O fai la. Sì, ok, comunque. Basta che state molto ferito. Basta salvare il cane dopo. Sì, sì, sì. Vediamo. 22. No. Prendi. Quindi spendo uno slot di secondo per farlo aumentare il danno di 3 di 6 più di 8, più di 8 dell'arma, sono 10, 16, 24 e 7, 31. Buono. Il primo attacco. Ok. Danni magici. Secondo attacco. 24. Sì. Brucio un altro slot. Dieci, 15 e 7, 22. 22. Ok. Poi dico al cane di aiutare Nasa ad distrarre il suo bersaglio per aiutarlo. Ok, Arian state in caso. Ancora non ho fatto un critico da quando gioco. No. No. Arma spirituale. L'ho fatto solo su assassinato. Arma spirituale. È arma vero. 30. Non ho mai fatto un crit. 15 più 8, 23. Prendi. E fa 8 più 5, 13 danni. 13 danni. E poi mi curo. Ok. Eric, sta a te. Attacco il solito. Col vantaggio. 19. Aspetta che tiro. Preso. Ah, scusa. 6, 10, 15. Qualunque 20. Risultato. Vai, vediamolo. Allora, 12, 17. Ehi, aspetta. Buoni sti fili. 12, 17, 23, 28. Ah, così vicino. Ma non è abbastanza. Ci sono stati. Doveva fare il danno anche lui invece di curarsi. Vabbè. È più safe. Sì, sì. Proverà ad attaccare il catabriga. Con svantaggio. Con svantaggio. Ma ti becca. Col primo attacco poi. 19 danni. Quindi 16. 6 a 6. Vediamo se il secondo andrà a segno anche lui. No. Ma ci sono anche. Ma beh, l'altro albero potrà dare la sua mano. E lo becca, infatti. Catabriga non è. Indici. 18 danni. Minchia. Oh, segato, catta. È ora quello piccolino. Reazione di mezzo. La serratura? 15. Preso. 15 danni, quindi dimezzati. L'altro va su Giulio. No, dai! È critto! Non ci credo. Non posso usare l'inspiration per darti svantaggio? Madonna, ragazzi. Cioè, è imbarazzante sta cosa, però. Intanto su qualche... Ho capito, ma ne fai... due a partita? Ne ho fatti pochi, l'altra volta ne ho fatti tanti. Raga, frittate anche voi. Così. No, mai. Io non ho fatto. Cioè, io in 21 volte che ho giocato, no, mai. Ma sbaglio di 6. Ah, tu mi hai lui. Tieni. 28 danni. Ah, è andata bene. La cura di prima però è andata puttana. Però devi arrivare al secondo attacco, se non sbaglio. Che non ti becca. Che lo becca. Ecco. Sono giù. Vedi a 9. Cazzo. Sì, di poco. 11. Tocca a me. Sì. Provo a finirlo. Spero. Beh, c'è ancora Break. Brax. Ah, rimane solo lui. Brax è vivo. Ah. Mi continua ad aiutare. Non vedo l'altro. È un 1 e l'altro è un 15. Ah, ok. Quindi 23. Sì. Cosa che vedi? 7, 10, 16, 21. Morto. Cade. E gli altri scappano. E gli altri cominciano a picchiare. No, gli altri tipo arretrano e tornano nel loro posto e tornano alberi. Quindi quando torneranno, salve. Questo cade. Io il e problema tipo, è che tipo diventa tipo cade a terra e tipo si diventa una specie di albero tipo radice fossilizzato nel terreno. Io medicina non ho nulla. Per stabilizzare devo avere qualcosa, kit. È tipo la pietra. La pietra. La pietra che c'era lì si apre. Una si spacca. A me ci penso io. Si apre. Scusa, c'è una piccola. La roccia. Sì. Se un'occasione più unica che rara per un ladro. Quanti oggetti dai, e quanto sì, tesoro. Ci risvegliamo senza gli oggetti. Vi risvegliate. Vi risvegliate. Sarebbe un po' stronzo tutte le volte che l'abbiamo salvato. No, questo le qua non ci sta. Le frustate di quei catricorni. Do una pozione di cura presa dal suo corpo. Perché io non le ho. Le immagini tipo presa di da... legato al palo e frustato. Vergogna. Do una pozione a lui. Chi è? Ah, il vento. Presumo. O ci stuprano. Le pozioni cosa sono? Di 2 di 4. Una puttanata. Costano un sacco e non fa niente. 4. Ma scusami, quindi tu parti direttamente a curarli? Senza indagare. Andiamo a fare i tiri. Dai, li curo. Lo so che però se, ci sta se stavolta. Se la prendi da me io ce l'ho maggiore la pozione. Quanto fa? 4 di 4 più 4. Non ne hai piccole? Perché tanto è sciupata. Ne abbiamo nella cassa comune. Sì. Prendo piccola. 4 PF. Tu devi fare un tiro però, Kat. Perché nel turno che io gli do a lui tu vai giù. 10. Dash. Io mi alzo, puro catta. Ma la fermiamo qua. Cosa? Vi faccio fare solo un'ultima cosa. Ok. Cura di 7 catta. E poi io faccio altre cure. Faccio un'altra cura su catta. Sono altre 10. Faccio due su di me. Adesso sono che schifo. 3, 13. E sono 17 per me. Quanto? Sono 17. 17. E ho finito le cure di primo livello. Sì. Siete tutti svegli effettivamente. Gli dico, visto che. Dai, giochiamola bene. Come vuole bene. Visto che loro erano giù e non l'hanno vista, quando l'albero è morto si è aperta la roccia. È vero. Dovremmo indagare. Tuttavia, si alza l'albero. No. Sentite dei rumori poco più avanti, oltre la linea degli alberi, come di una specie di marcia. Cioè, tanti piedi che si muovono? Sì. Beh. Direi. Qual è la cosa pensa il meccanico? Io vado a vedere la pietra, sono curioso. Ma la pietra, nel senso, ho capito che sia un funicolo, si è aperto una pietra. Quello non ho capito. Si è aperto una sorta di fessura o una porta? Una fessura? Si è aperta una fessura. Ah, vado a vedere. Però quanto è grande? Ci passa il nome? Ma no, non sarebbe stato come una porta. No. Però stanno arrivando questi passi, quindi qualunque cosa vogliate fare vi converrebbe forse nascondervi adesso e poi eventualmente controllarlo. Va bene. Se non volete essere beccati. Io mi nascondo dietro uno degli alberi che sarà animato prima. No, avete tempo di nascondervi tra gli alberi. 17 più 8. No, 17 più 9. Mm-hmm. Vabbè, poi... puoi fare come prova per tutto il gruppo questa. Uh-huh. E va bene, vi nascondete tra gli alberi. Anche perché se mi fossi dovuto nascondere sarebbe stato un problema. Cioè, io avrei fatto folk club. Perché là c'è una nuvoletta e oggi... Ma è un IBM della foresta. Praticamente... vedete passare una colonna di orchi, saranno una trentina d'orchi, affollata questa foresta, e tutti bardati, cioè non particolari, cioè come un orco può essere, insomma, però armature eccetera, e sono cioè non avete mai visto degli orchi così pelosi, sono proprio, cioè, del pelo bianco super... degli uocchi, sì, quasi, però bianchi, tipo molto, però sono degli orchi onestamente, e non sono soli, però chi c'è? Stanno trasportando delle gabbie su delle sorte di portantine, dentro le quali vedete diversi nani dentro le gabbie. Potremmo liberare i nani. La colonna passa, nessuno vi nota, nessuno si ferma a controllare dalla pietra, eccetera. Anche perché pietra nostra. E perché comunque una piccola fessura, nessuno ci fa caso. Quindi sono abituati a passare di qua. Passano tra gli alberi e sembrano dirigersi verso le montagne. Qui siete molto vicini, come ho detto, al termine della foresta, in realtà. E passano oltre. Praticamente, come ho detto, notate appunto questi nani prigionieri all'interno delle gabbie. Nessuno sa nulla di insediamenti inamici da queste terre? Voi no. E con questo direi che possiamo... No, la fessura, dai. La prossima volta. Con questo direi che possiamo chiudere il 21esimo episodio di Coloni, con questi serie di scontri infiniti e all'ultimo sangue. E... vi ricordiamo ancora una volta che ci potete continuare a seguire sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e su quella di RIGDR, sul blog rigdr.wordpress.com e sul podcast di RIGDR, il podcast più segnalato alle forze dell'ordine. Noi vi ringraziamo appunto per averci seguito e non so, avete un ultimo pensiero da condividere? Una trentina d'orchi. La colonna proprio in marcia. Ma no, avevano anche... no, però sono lì, si spostano. Come se avessero dietro il padroni con le fruste. Andavano spediti. Però sì, no, non avevano i padroni con le fruste, però andavano spediti. Ok. E se fossimo fuggiti, quelli arrivavano, lento li massacravano. E prendevano il bottino di entrare. Il bottino, Oppure siete stati considerati voi come nemici. Magari loro sono comunque i loro luoghi. Infatti Passano per una strada già battuta o proprio in mezzo alle frasche? No, cioè passano per un sentiero lì vicino. Ok. E si dirigono verso le montagne. Quindi lo sapevano già questo, lo conoscevano già questo posto. Probabilmente, comunque sarà la loro foresta, forse. Mm. Comunque vi era stato, cioè tu non lo sai, però Giulio, il tizio, aveva parlato di orchi. Sì, non so, ci sono orchi. Va bene. Allora, la prossima volta magari lo dirò. Ai prossimi episodi che ci aspetteranno nelle prossime settimane. Grazie a tutti per averci seguito. A presto. Ciao. E niente. I cari amici del podcast, vi salutiamo anche a voi. Ciao.